attenzione Spaviero, Spaviero, Spaviero, guarda se c'è il gorbio. Aspetta, Spaviero, ci sei, Flavio, Flavio Spaviero. C'è nessuno? $2? Fatti povero di sera, non ci può fermare, aiuto. Spaliero, Spaliero, attento Spaliero, Spaliero, ci sei? Spaliero, Spaliero, ora, ora, ora, c'è nessuno su 10? Ora, io mi sento, attenzione Spaliero, ci sei? Sa, sa, provami in chiofono, provami in chiofono. 8 e 9 lo sta andando. Meglio, comunque esce. Diciamo la modulazione naturalmente non è eccezionalmente forte, c'è una modulazione normale, come un baracchino normale, come può essere questa, poi dipende da quanta distanza sia dal mic. Io parlo di solito a 3 cm, per non dire che me lo mangio il mic. Sì, più o meno sono 5 volte 10, dipende dalla data. No, questo è un microfono normale, un gran bel baracchino, c'ha 3 strumenti, c'ha molto grandi, dove c'è lo switcher, la calibrazione stazionaria e lo stazionario. C'ha le CCD, 23 canali, un baracchino degli anni 70. È un Royce, si chiama Royce AM-SCC, modello. All'arma, c'è un Royce, è finito. Claudio, ci sei? Comunque questo Royce di nome lo conosco, guarda, potrebbe averlo quello. Chi è che aveva un Royce, porca miseria? O era Antonello Barracuda da Ossi? O Claudio stesso, questo Royce ce l'ho presente, l'ho anche visto in foto, un bel apparecchio. Certo che caspita, quando devi far girare tutti gli apparati che hai, ci vorranno mesi e mesi. Lo so, ma è stato un po' facile, non sento scariche, non sento problemi di sorta, e quindi sembra che vada. Ma hai detto che c'è qualche problema su alcuni canali, ma lo stesso difetto che avevo fatto a quella persona che ha lo stesso Royce, su alcuni canali non andava, non funzionava, non trasmetteva, proprio non saliva la portante. Vediamo se è all'ascolto. QTC per Antonello Barracuda, c'è all'ascolto? No, naturalmente non c'è, non c'è più nessuno. Poi Giulio c'è all'ascolto. Giulio, da quando ha perso la Juve 3-0 in lutto. Guarda che anch'io sono juventino, io capisco che non tutti per ci E io vabbè, non sono tifoso, ma lo era nonno, sono filo juventino. Preferisco la Juve, mi piace più il colore abbinato bianco e nero. Invece nero azzurro, rosso nero, brutto brutto. Va bene. Se vuole entrare qualcuno, bene, se no, poi da quando c'è questa applicazione infernale. Insomma, alla fine sono parte in PMR, parte sull'applicazione, parte in ora mala e qua non entra quasi nessuno. E mi ci metto anch'io in mezzo però, è un caso che abbia acceso. Perché tu stavando a voi, se io ne avevo un paio, quelli un po' graffiati, problemi a legno, ho dovuto fare una Luca Flipper, una Luca dove monte e uno a Flavio, un paio ne avevo dato. Poi ne ho dato uno a... Non sta per quello penso, Gigi Vulcano. No, Luigi Vulcano meno che mai, da quando è andato in pensione, pochi giorni, forse c'è chi ascolti pure, però non l'ho più sentito né sul 45 né sul 5, a parte che non sento proprio più camionisti, anche perché ti ho detto quando c'è l'applicazione Midland, cioè loro parlano dal polo nord al polo sud senza rischiare la galera, senza linieroni, antennone e palle varie. Cioè nella sua è perfetta quell'applicazione, non è radio ma è perfetta. Se conti che ci puoi mettere il microfono senza cavo pure, se il cavo ce l'ha, no? Puoi switchare tra baracchino normale e Bluetooth via applicazione. Sono tutti là. E li riconosci anche perché hanno la modulazione a manetta, non si smentiscono mai, anche sull'applicazione ci hanno Michigan tutto a manetta, infatti quando entrano loro devi abbassare il volume, quando parlano gli altri lo devi alzare. No, lo so per un momento questa cosa, sempre una telefonata devi avere molti giga disponibili, io al primo momento ci arriverà a giga di ubicati, perché per il volume che hanno fatto la radio, ma lo stesso faccio. Non è crescente un po' di fatto, perché io tra le macchine che state in generale si creano bassi tutti, pari si mantiene fare 104 di quelli del comune fanno di quelli 48, o lineari di 550, no? Ma tu non ti allora, è meglio avere i baracchini, poi con l'applicazione la conosco, ce l'ho anch'io. Ma stai ascoltando qualcosa? Perché sento come campane, suoni strani sulla tua modulazione, non so se dipenda da me o se il vento. No, il 21, no, c'è la radio accesa in digitale, in 78, penso che sono le prove. No, allora è quella, no, credo di avere di sentire le voci, i suoni. Ok, tutto a posto. Vediamo se c'è doppio room all'ascolto almeno, doppio room. C'è già, ho sentito l'altro giorno anche a marito di Ombra, come si chiama? Il marito di Ombra, e qua mi cogli impreparato perché io ero pischello, non... che può essere? Non Bacchisio, no? No, Ombra, no, il marito di Franco, c'è qualche lungo ritorno, io non l'ho mai abbandonato, sai che non accetto più, qualche pizzata, roba del genere, ma poi siamo in quattro, ci afferriamo in quattro, non ha senso fare queste riunioni e fingere di esserti amici e tutti d'accordo, lasciamo perdere, insomma, da tutte le parti così comunque, forse lavoro, frequenze, eccetera, eccetera. Ho capito in parte. Aspetta che cambio baracchino anche tu, questo professionale di questo. Ehi, a prova. Claudio, se l'ascolto, Giulio, Gianni. Cos'è? Vi state tenendo le antenne? Ah? Ecco qua. Eccolo, ti sento. Ecco qua. Sì, mi senti? Sì, adesso. Questa è una modulazione leggermente più forte. Questa è una paghetta. Tu hai mai provato a fare il giallo? No. Assolutamente, anzi mi ero venduto l'857, mi ero venduto lo Iesio 8009, lasciamo perdere, poi bisogna zuffarsi in condominio per antenne e balle varie, no? Troppe spese, non avevo intenzione di affrontarle, e poi me ne scese un po' la passione per la radio, anche per il baracchino. Pazienza. Tanto qua, cosa credi che avrei potuto piazzare in condominio? Qua, se voglio li piazzo, ma poi bisogna andare a carte bollate, perché troveranno storie, neanche se non ci sono se le inventeranno. Avrei potuto mettere una verticale banale tipo CPC, roba corta. Allora, non ha senso, per parlare solo col continente non ha senso. Poi qua diciamo che il terrazzo ha due proprietari, dalla parte mia c'è un proprietario, dall'altra parte un altro, quindi se vuoi mettere roba lunga, di poli a V, qualsiasi cosa, ti devi azzuffare con due parti diverse. È già tanto che... abbia piazzato l'antenna nel baracchino qua, anzi in realtà c'era dal 92, non ho fatto altro che cambiare palo e cambiare antenna, e questi dal 92 si sono svegliati e si sono accorti che c'era un'antenna sul tetto dal 92, poverini. Quanti anni hai? 47. Non lavorando la vedo dura, comprare una casa in campagna, forse con reddito dalle zie anziane, vediamo cosa c'è. Peraltro c'è già la casa in campagna, basta che mi lasci quella e io sono contento. Stai lavorando? Di mano. Vabbè, c'è dietro tutta un'altra storia. Salute, morbo di Mandrox, un po' di depressione, tante cose messe assieme, dai. Ma soprattutto il morbo di Mandrox, però, mandronite acuta. Marco, ti devo salutare, ci sentiamo dopo. Sembra Paliero, quindi da fare. Ciao. Sì, lascio acceso, vediamo se entra qualcuno, se no pazienza, dai, sentiamo, buona serata. Ciao. Ah, il segnale com'è? Fuori di te. Tu sei Santiago 9 spaccato. L'avevo tarato come il 9 del 140, del Kenwood del 140, quindi almeno il 9 è preciso. Questo è un Superstar 3009 omologato, la versione CE omologata, o presunta omologata che sia, dai. Deia, nel caso ritieniti salutato, buona serata, buon tutto, dai. Gli altri non entrano perché si staranno mantenendo le antenne sul tetto, vedrai. Ciao. CQ canale 10, c'è nessuno all'ascolto? CQ canale 10, c'è qualcuno all'ascolto? Chi è? C'è qualcuno all'ascolto sul canale 10? Sì, chi è avanti? Buona serata. Giulio, ciao. Me. Allora, hai chiamato tu poco fa, non ho le travegole. C'era Walter fino a 5 minuti fa, stavo provando dalle radio. Ah, ho capito. Io faccio adesso, stavo guardando un film alla televisione. E allora, cosa si dice? No, niente, stavo lamentando appunto che non sentiamo nessuno, ho provato a chiamare in tutti i canali. L'ho beccato sull'uno per sbaglio, Walter. Allora siamo passati qua, forse rientra dopo, forse, se può. Allora, non sarà, si staranno mantenendo le antenne tutti contro il vento. Ho detto magari, Giulio non entrerà perché è in lutto. E lui ha detto, anch'io sono juventino. lo so. che volte sei a Juventino, lo so. No, non me ne frega più di tanto, io non sono spalmanato, no. Io guardo la partita, mi piace il calcio, questo sì, però non faccio pazzia, insomma, ecco. Anzi, ti ho detto che quando segna la Juve nemmeno mi alzo dalla sedia, come siete pazzi che si sbattono anche la testa al muro, dalla contentezza. Io guardo e basta, e io lo intendo così, il calcio lo intendo così. Sì, infatti, non... tanto soldi aspetta che... Ecco qua. Sì, infatti, non... Certi sono degli scalmanati, poi quelli che vanno alle partite, molti sono proprio delinquenti travestiti da tifosi, quello non è calcio, non è tifo, non è niente, quello è delinquenza comune. Ma vale per tutte le squadre, per tutti i tifosi, però violenti, quello. Ti volevo dire, Giulio, ho notato una cosa strana. Io ho ancora TV Tap installata, no? Mi aveva segnalato giorni fa come un aggiornamento, no? Cioè, mi segnala un aggiornamento, nota bene, però quando vado ad aprire il Play Store per aggiornare TV Tap 2019, penso sia lo stesso che tu, è sparito dal Play Store. È sparito. È strano che un'applicazione venga tolta dal Play Store. Ho avuto problemi di casini o di pirateria. Inoltre l'avviso dell'applicazione di aggiornare non veniva dal Play Store, era una finestra che si apriva al di fuori del Play Store, una cosa un bell'onfia, e mi chiedeva di aggiornare. Non ho cliccato naturalmente, sono andato, ho chiuso quell'avviso, sono andato al Play Store e non c'è più l'applicazione, boh. Va bene, comunque è valida, è sempre valida l'applicazione, ce ne sono altre, più che altro è tutta roba di calcio, tipo DAZN, come si chiama? DAZN, come si chiama? Insomma, è pieno di applicazioni per TV in streaming, però io quella ho visto, quella mi è piaciuta e quella tengo. Non vuole che fosse maliziosa come applicazione, comunque l'antivirus dice che è pulita, non segnala nulla. No, guarda, è tranquilla, TV Tap è tranquilla, no? Non ce ne sono problemi. No, io non ho bisogno nemmeno di installarla, perché l'ho installata una volta e basta, e c'è l'app, tocco l'app e parte subito senza nessun problema. Sì, no, quella che stai dicendo tu, su quale si pronuncia da Zon, si pronuncia, ma come lì è a pagamento? Quella è una rete, una piattaforma che trasmette solo tre partite di Serie A, che raramente trasmette altre partite, perché praticamente è una diciamo così, una specie di associata di Sky stesso, però si hanno diviso le partite, si hanno diviso e Sky ha la maggioranza, ne ha la roba di 7-8, per cui si danno le partite più scadenti, diciamo, quelle meno importanti. Sì, capita naturalmente che magari, che so io, gioco a Udinese Juve, può essere anche lì, non è un problema, capito? Per cui no. No, installatela di nuovo, cioè, e guarda che ti esce l'app nel telefonino, tu poi non fai altro che toccare l'app e ti si apre la pagina e poi vedi tutto. Sì, sì, infatti. Però siccome mi era venuto questo dubbio, ho detto, ma siccome non la sto usando niente, a dire il vero, no? Perché sai, ancora il tempo è brutto, poi come primavera comincerò a uscire, andare a Platamona, metti che una sera voglio andare anche a pescare di nuovo, quando è bel tempo, quando sarà bel tempo. Posso portare quello nel frattempo, perché io non sto con la canna in mano, io pianto la canna, il piantacanna col campanello, finché non ho bocca non sto con la canna in mano tutta la notte. Posso portare quello, mi guardo qualcosa in TV. E se l'avessi, non solo, ma se l'avessi disinstallata, sul Play Store ufficiale non c'è, e raccomandano sempre di non scaricare niente che non sia dal Play Store, perché può essere un'applicazione modificata, maliziosa, eccetera eccetera. Comunque, per qualche motivo l'hanno tolta dal Play Store, va bene, comunque va bene, ho fatto bene a lasciarla comunque, dai. E mi pare che anche lì ci sono i canali da DAZN su TV Tap, li abbiamo provati l'altro giorno in un circolo e si vedevano, però il segnale lo perdeva, lo sai, anche avendo la fibra, l'iperfibra eccetera, non arrivava segnale sicuramente dalla fonte, andava a scatti, andava a rilento e si bloccava del tutto. Sì, no, ma già per, diciamo, per difetto da questa piattaforma, tanta gente che ha anche l'abbonamento, che tra l'altro si paga 9,90 euro al mese, si paga, però è una schifezza perché le partite si interrompono, cioè essendo a pagamento non si dovrebbero interrompere, invece si interrompono ogni tanto, magari si riprendono, poi si ripristinano, però hanno questo problema, hanno questa difficoltà in quella piattaforma lì. Diciamo che su TV Tap ci sono tutti i programmi, intanto della Rai, tutti i programmi di Sky, tutti i programmi di qualsiasi altra televisione eccetera, per cui c'è tutto, c'è dallo sport di ogni genere, dal calcio al pugilato, al ciclismo, al tennis, al motocross, all'automobilismo, tutto, tutti gli sport ci sono. Solo che devi naturalmente sapere quando ci sono le partite, ad esempio, oppure le gare che ti interessano per poterle vedere. Io tra l'altro poi, prima guardavo nel tablet, mi guardavo, no, completamente gratis, no, non paghi niente su TV Tap. Adesso ho anche il filo adatto per poterla trasmettere sulla televisione direttamente. Io attacco il filo, attacco e lo guardo nella televisione da 44 pollici, che ti puoi immaginare. Sì, è vero che ogni tanto magari potrebbe anche interrompersi, nel senso, ma è una questione di 10 secondi e poi si ripristina, sai, quel cerchietto che esce, che si ricarica continuamente, no? Però diciamo che la partita la vedi anche molto bene. Invece con la sera abbiamo provato in contemporanea con più cellulari e si bloccava da tutti, pur avendo il 4G a fondo scala. E vabbè, capita, d'altronde TV Tap è roba gratuita, quindi non bisogna aspettarsi un servizio garantito, se non crede. Bene, vediamo se chi sia all'ascolto qua, se è entrato Claudio, se è entrato Gianni, vediamo chi c'è, no, nulla, insomma quando entro io non ci siete voi, quando ci siete voi non ci sono io e non ci ritroviamo mai, uia. Ah, l'applicazione non la sto usando momentaneamente perché mi scoccio di essere, che ne so, a tre quarti di batteria o metà e in un'oretta me la tira giù. Ciuccia quell'applicazione. Se si potesse, guarda, disattivare il GPS sarebbe bello, però vuole GPS. Se non lo attivi non funziona. Civitalk vuole vedere dove sei. Peraltro hanno aggiornato l'applicazione, hanno aggiunto nuove rifiniture, hanno risolto piccoli bug, dei piccoli problemi dell'applicazione, che ogni tanto si bloccava. Luca, sei tu? Sì, chi c'è? Giulio Dollaro, uno dei punti, fammi vedere il segnale tuo, modulazione buona. Bravo. Sei 7,5, c'è appena di alternata sotto, ma qua è trascurabile. Giulio, lo senti Luca? Sì, lo sento basso, ma già lo sento. Sì, ciao Luca. Ma io, parlando dell'applicazione, Marco, ieri, ho chiamato uno dall'Argentina e ci sono andato di proposito, però, e mi ha risposto, mi parlava in spagnolo, ma io non è che capivo un granché di spagnolo. E dunque comunque andava bene, però io avevo collegato tranquillamente, cioè non c'era nessuno, cioè ho fatto così, sono andato su impostazioni, no? E dopodiché sono andato, ho schiacciato, aspetta come si chiama quella palla lì, boh, il fatto sta, quando noi facciamo l'iscrizione, pigiare sulla bandiera italiana, no? Io cosa ho fatto? Sono andato sì su impostazioni, sono andato dopo casomai con più precisione ti dico com'è, e poi ho cliccato la bandiera argentina, ho chiamato, no? E sono andato sui canali, ho visto che c'erano quattro bollini, che come quando c'è gente, no? E ho chiamato e mi hanno risposto, ed era dall'Argentina, solo che mi rispondeva in spagnolo, io non capivo un granché, capito? Sì, perché quelli sono tutti paesi a lingua, una lingua spagnola. E infatti io sapevo che su Cibital si poteva aggiungere, mi pare, fino a 3 o 4 paesi a tua scelta, e presumo anche a modificarli nel tempo, no? Tipo se uno apparente negli Stati Uniti, amici, però non ne ho messa neanche una, perché tanto non so la lingua, ed è finita. Però vedi, a te ti hanno accolto bene, come è andato proprio nel Brasile, la Santarato, è banato pure. A proposito, Antonello, ci sei all'ascolto? Non c'è. Come ti rovedi nello Drassani? Vai Luca. Luca è sparito. Già sto uscendo, sì? Sì, già sta uscendo, sì. Capito, per cui vedi bene che ci sono, che c'è questa possibilità anche. Poi sono andato sul DM, invece senti, ma non ti sentono loro a te, perché c'è il discorso, se non hai quel microfono, appunto come avevano detto, che sentire potevi sentire, però trasmettere non era possibile sui canali DM. Anche lì ho ascoltato, ho chiamato, ma niente da fare, no? Anzi, la portante nemmeno si accende quando schiaccia la portante. Però sentire sentivo, Eia. Certo, avendo un parente, noi abbiamo un parente fuori sede, ma lui ha quasi ripudiato i parenti, raramente contatta, poi alla scusa che è sempre al lavoro, non è possibile che uno lavori 24 ore al giorno, però vabbè, poi c'ha la moglie, c'ha due figlie, quindi sta lavorando attualmente questo cugino a fianco all'Inghilterra, quella tanto bistrattata Irlanda. Ok. No, io sempre quello, tempo fa avevo collegato Salvatore Salvatore Branca, no? Salvatore Maestrale, l'avevo collegato due volte, l'ho sentito, lui ormai è emigrato in Austria, è emigrato e parlava sempre con noi, praticamente quasi tutti i giorni a Baracchino, e poi se n'è andato già a Roma 6 o 7 anni fa, dalla Sardegna, se n'è andato a lavorare in Austria. L'ho collegato due volte, infatti mi aveva incaricato di salutare gli amici di Sassari, eccetera eccetera. Vedete, vedi, quella è già una gran bella cosa, perché sono riuscito a collegarlo, l'ho sentito, cioè l'avevo visto sulla rubrica, no? Quando sai, controlli chi c'è, chi non c'è, ho visto, allora sono entrato e l'ho chiamato e mi ha risposto tranquillamente, tutto lì. Il discorso appunto che ti stavo dicendo, se tu per dire non so schiacci la lingua francese ti parlano i francesi e così via, se schiacci la lingua russa ti parlano il russo, come fai a capire? Boh. Ecco qual è il problema. Infatti, poi sai, sono abbastanza nazionalisti francesi, anche tedeschi, no, tedeschi ancora, i francesi, se vai dei francesi parlano francese, non tentano nemmeno di parlare italiano, a meno che non trovi un'anima pia. I tedeschi ogni tanto, soprattutto nei DX, tu cerchi di chiamarli magari in Francia inglese, italo inglese, loro tentano di rispondere lo stesso, in una specie di mezzo inglese e mezzo italiano. I francesi invece sono quelli che no, se vuoi parlare con loro devi parlare francese, capito? Sono scelte quelle, scelte no. Modi di fare, non so come definirli. Bene. Comunque Civitalca alla fine non ha inventato niente, c'era Zello pure. Diciamo che di buono ha fatto la modalità locale, l'unica che mi interessi. Perché a me di parlare con quei quattro terroni dei canali nazionali, mi dispiace. Noi parliamo italiano, ma quello, cibo tutta cosa, lasciamo stare, no? Infatti, poi non mi piace, soprattutto quando ci sono quelle puttarelle, ragazzi, che fanno le cretine, poi c'è l'altro, quei papponi che subito appena che sentono una donna, subito si buttano a capofitto, a gamba tesa sul canale, ed inventano le fagioni. Ma no, non mi è mai piaciuto e non mi piacerà mai, sono convintissimo che non mi piacerà mai, più di tanto entrare qui nella versione gruppo, nella versione canalizzata, quella sì, perché parliamo fra di noi e gli altri verso, è come parlare qua c'è il baracchino, anche se il baracchino è sempre il baracchino, per dire, però la versione gruppo, qualche volta già entro, non è che non entro, quando non c'è proprio nessuno, entro a parte, sento determinate persone che ci ho parlato altre volte, mi sono piaciute. Devo dire che un tipo, un certo Renato 45, un certo Diego, un certo Bonate, non me lo ricordo, ma me l'avevo anche scritto i nomi proprio per non dimenticarmi, per un eventuale nuovo QSO, e poi non lo so, forse l'ho buttato il foglio. Comunque mi chiedo, quante di queste persone che noi sentiamo sui canali nazionali avevano il baracchino? Magari certi l'hanno fatto per moda, hanno trovato un'applicazione figa, come dicono loro, no? E allora l'hanno provata. Poi sì, c'è gente che comunque ha avuto il baracchino, te ne accorgi perché dicono che 7351, QRT, capito? Parlano come fossero in radio vera, dai, sulla radio vera. Vabbè, io dico terroni, cioè certi hanno modo di fare, calabresi, certi siciliani, certi napoletani hanno proprio un modo di fare, cioè ti dicono se non ti piace te ne vai, noi stiamo parlando così di questo, se non ti piace te ne vai, sono anche sfrontati, capito? C'è modo e modo di dire le cose. E vabbè, peggio per loro, ma comunque bugiuri come li trovi in Sicilia, li trovi anche in Trentino, per dire, in Val d'Aosta. Infatti, poi non mi piace. Aspetta un attimo che vivono un po' di ignoranti. Io ho abbassato il volume adesso, perché ho abbassato il volume, dai. Bel venticello oggi, stavo per farti una battuta quando ha detto che sentono una donzella, entra una gamba tesa sul canale, non solo la gamba tesa, già lo sai, una volta non si chiamava i Curmain al baracchino, come sentivano una nuova, tutti, chi sei, dove abiti, come si è fatta, diamoci un appuntamento, era una cosa patologica proprio. Quelli sono tutti quei papponi, tutta quella gente di che vale quattro soldi, tutta gente bassa, quella che non merita di parlare con le persone come si deve, per carità. Sto infantio, no, ho eliminato. Non facevo vocazione perché non c'era nessuno, dunque adesso penso, vabbè, già mi hai capito. Ma carità, purtroppo così. Ciao Spalviero, ma non esci fuori, no? Che è pettina? Oggi si vede che è andata a lavorare e sta facendo tutta la tirata, anche al buio. Infatti c'è proprio, è strano, quando ci sono io non ci sono gli altri, non c'è nessuno, o viceversa. Gianni dovrebbe essere ancora in ferie o malattia, non mi ricordo. Però sai, giustamente anch'io stasera mi stavo, tanto per cambiare, azzuffando col computer, cioè per far comunicare lo smartphone al computer o il programma apposito, non c'era verso, mi chiedeva un aggiornamento in continuo. Poi ho scoperto che bastava semplicemente disattivare la connessione internet, no? Quindi il programma si avviava, non cercava aggiornamenti, anche perché questo aggiornamento stranamente non lo fa installare, cioè lo scarica e non installa nulla. E quindi ogni volta che sei connesso a internet lui cerca l'aggiornamento e ti blocca il programma, capito? E allora, per puro caso, ho staccato la connessione internet, ho visto il programma si è avviato, sono riuscito a copiare i file, a salvare i contatti, a salvare le foto, bla bla bla. Però è di una lentezza, cioè tu pensa, se non ci fosse stato il programma a fare da tramite, come era il vecchio smartphone, no, ti compariva come memoria removibile, facevi copia e incolla, fatto. Invece questo programma che sta in mezzo fa l'accollo di bottiglia, perché per trasferire un video un po' di grandi dimensioni è di una lentezza straordinaria. Fa da collo di bottiglia, mi hai capito? Sì, sì. No, io anche lì mi sta scocciando anche quello, il fatto del computer, tutta questa pubblicità che ti si dovrà porre, quanto mi dà fastidio, ragazzi, ma quando mai? La elimini e poi dopo un po' c'è di nuovo, no, non è possibile. E così sta diventando anche il telefonino, tutto pieno di pubblicità, quando magari entro per leggere, per dire, non so, qualche notizia sul giornale, ad esempio sul giornale Sassa, eccetera. Se si sovrappone questo accidente della pubblicità è fastidiosissima, cioè finché lo fai una volta, due volte, ma loro sono continuamente, è una scocciatura anche quella, incredibile, e vabbè, ci piace l'elettronica dobbiamo sopportarla come arriva, questo no, non ci sono dubbi, ma per dire, no, ma quando mai, ragazzi, tutta questa pubblicità online non è che mi piace poi per niente, anzi la odio addirittura. Non puoi capire, poi c'è da contare che molte applicazioni gratuite sono gratuite proprio perché ti devi sorbire la pubblicità, e i siti, anche navigando sui siti, sono pieni, anche se tu metti il blocco pop-up, no? Che erano quelle finestrelle che si aprivano. Adesso, nonostante il blocco pop-up, si aprono stesso pubblicità di ogni genere, di macchine, di moda, fino allo sfinimento, guarda. E bisogna avere pazienza lì, infatti mia zia certe volte, che pazienza non ne ha, si buria, spegne tutto e manda al diavolo tutto. Peraltro mi aveva un Huawei, ha avuto un problema, è impazzito lo schermo, perché anche apriva applicazioni, le chiudeva, era inutilizzabile. L'ha spedito in assistenza, 3 settimane, forse 4, hanno sostituito un componente, manco non ho detto qual era, è tornato come nuovo. Può capitare. Comunque la funzione che hai tu di trasmettere il video alla TV col cavo è una cosa bella, e purtroppo però sui telefoni, sugli smartphone, per avere quella funzione devi avere quantomeno un top di gamma. Per esempio quello Huawei che ho preso io è un medio gamma, una fascia media, no? Media RAM, medio processore, né troppo né troppo poco. Per un top di gamma avrei dovuto spendere 800 euro, o quantomeno 700 euro, per dire, per il P20 Pro Huawei. E siccome io non li voglio spendere, mi rifiuto categoricamente. E poi anche avendoli, cioè anche volendo non ce li ho, e quindi io mi sono prefissato un termine. Ho detto massimo, pensa, la volta prima avevo speso massimo 150 euro il budget. E avevo preso una cosa già sorpassata, lenta, proprio una cosa base. Questa volta ho detto mi prefiggo 300 euro, sono andato al raddoppio. E quanto dura. Poi ho avuto anche culo, per dirla proprio terra. E l'ho trovato, da tutti era 2,99, l'ho trovato a 2,59, mi è andata anche bene. E con i soldi risparmiati avevo preso la Google Chromecast. Ok, sì. Sì, io ho quella cosa lì, perlomeno per quest'anno, però quest'anno abbonamento non ne ho fatto io alla, alla Premium, anche perché ormai è tutto Sky, per cui no, no, assolutamente, perché avevano aumentato, ma non vogliamo scherzare, ma alla fine mi sono fatto un po' di conti, ma che me lo fa fare a me a dare 500 euro l'anno per vedere le partite così? E allora mi hanno dato questo, questo sito, mi hanno dato, e siccome ho il tablet, ne ho tre qua tablet, ne ho uno, tre ne ho, è abbastanza grandetti, e con questo TV Tap sono riuscito ad avere subito a vedere la partita, anche se devo dire in tanto ci sono dei giorni magari che non si interrompe niente, ci sono dei giorni che si può interrompere anche due o tre volte, però è una questione, un'interruzione di 10 secondi, 15 secondi massimo quando è tanto, esce quel cerchietto, sai come si, quando si ricarica, no? Già lo sai com'è, e poi si riprende subito. E allora poi adesso per il Natale mi aveva regalato un cavetto mia figlia, e così lo metto direttamente nel televisore e lo vedo grande, io televisori grandi quindi ho abbastanza, ne ho uno in salone 44 pollici e tutti gli altri sono tutti intorno ai 38, tutti così, pensa che ne ho due in camera letto, uno dalla mia parte e uno dalla parte di mia moglie, da 20, 24 mi sembra, questi sono 22-24, perché lei guarda i suoi programmi, io guardo lì, tu lo sai, io guardo molto sport, guardo la notte, ci mettiamo le cuffie sia io che lei, e dunque ognuno si segue il suo programma, e altrettanto fa mia figlia nella sua camera, anche lei si guarda i suoi programmi che le piacciono, anche lei ce l'ha il televisore, insomma io a casa ne ho installati 5 tutti installati e funzionano tutti i giorni, uno in tavernetta, uno nel salone, e tre nella zona notte, due in camera mia e uno della mia figlia, 5 televisori che funzionano tante volte anche sino alle 2 di notte, tutti e tre quelli della zona notte, quando siamo a letto magari ci tratteniamo sino a vedere i programmi o fino a quando non abbiamo sonno, per cui vede bene che insomma già li sfruttiamo, dai. Pensa che lo stesso noi in casa siamo televisoromani, no? Cioè se andiamo in cucina a mangiare, televisore lì, nel salone, poi a parte che quelli vecchi li abbiamo buttati, un Seleco vecchio di 30 anni, tubo catodico, un Daivu. Però adesso prima di cambiarli aspettiamo che cambino le frequenze e questo codec di trasmissione. Quando cambieranno proprio il sistema televisivo, quando faranno quelle modifiche, allora prenderemo un televisore, tanto non abbiamo fretta. Adesso ce l'ho io e mamma. La tribù li aggiungeremo. Oddio, in cucina c'è un mini televisorino 15 pollici, mi piatto, schermo piatto, ma è un 4 terzi, pensa, è roba che avevano tenuto da tanti anni, da un po' di tempo, dai. E adesso preferiamo non cambiarli, no? Tanto sai come mamma sta invecchiando, non ho più voglia di invitare gente a Natale, alle feste comandate. E quindi nel salone alla fine televisione non ne guarda nessuno, mi ha detto tra noi, però uno piccolo volevamo mettere, l'impianto antenna è già pronto e così è. Vediamo chi c'è all'ascolto qua, Luca ci sei ancora, sei andato via? Sì, no, ma io ho anche l'impianto satellitare qua, anche la parabola, anzi c'era un periodo che ne avevo addirittura due di parabole, ma poi una l'ho tolta, ma una c'è rimasta, per cui posso avere, mi sembra che in tutto quel ricevitore che ho satellitare che riesce ad agganciare 4.800 canali, mi sembra, si può immaginare, quando girano tutti si sono fatte le 2 e 3 del mattino, si chiede se proprio uno vuole vedere, però ci sono tantissime trasmissioni e intanto a pagamento, cosa che non mi interessa, chi me lo fa fare? E poi ci sono anche delle trasmissioni in lingua straniera, tantissime trasmissioni in lingua straniera, per cui però ci sono anche trasmissioni in italiano, certo che ci sono, non è che ce ne sono tantissime, però ce ne sono parecchie, abbastanza. Capito Marco? per cui c'è da aspettare la televisione, la televisione deve essere accesa dalle 9 del mattino fino alle 2 di notte, mi non ti credere che tra la parte bassa della casa e la parte alta la televisione qui è sempre accesa, dalle 9 del mattino fino a tardi la notte, molto tardi. Guarda, quando ci addormentiamo presto, ma proprio presto è già l'una, come minimo, se no sono anche le 2, tante volte le 3, ehi, a voglia. Sì, anche perché io dormo molto tardi, capito? La mattina poi mi sveglio anche presto, non è che dormo troppo, mi sveglio anche presto. Io tutte le mattine, già alle 7, sto già accendendo di nuovo la televisione per il telegiornale, eccetera. Poi alle 7 e un quarto accendo la radio, che ho una radiolina lì, e ascolto il giornale radio della Sardegna. Poi alle 7 e mezza spengo la radiolina e accendo e guardo di nuovo la televisione, perché dalle 7 e mezzo alle 8 c'è TG3 Sardegna, per cui insomma, e poi guardo Agolà oppure quello del canale 7, della 7, e c'è la politica fino a ora delle 9, una cosa così, tutte le mattine mancabilmente. Aia. A me piacerebbe dormire da presto, alzarmi presto, farmi un giro via l'Italia, magari tornare in tram, certo, ma almeno l'andata, solo che purtroppo noi abbiamo degli orari troppo balordi, mamma mia, non si può pranzare alle 6:30, 7 quando non sono pure le 8 di sera, all'ora di cena, no? È un circolo vizioso. Oggi mamma ha fatto delle ultime polpette e le abbiamo mangiate praticamente all'ora di pranzo. Però so già che poi alle 8 avrò di nuovo fame e a mezzanotte di nuovo fame. Oggi faccio 3 pasti, Anche poi ci è avanzato, ci sono cosce di pollo arrosto, insalata di patate. Certe volte si sbilancia mamma, cioè... anziché fare una cosa che siccome sono mangiata ne fa 2, ne fa 3 e poi si butta. Stiamo buttando roba qua, non esiste. In casa di poveri si butti roba. Io capisco, no, oggi a pranzo mia moglie ha preparato delle penne rigate al tonno e con i piselli anche. E poi come secondo ho mangiato del tacchino, poi mi sono mangiato un'arancia. Proprio poco fa una mela che senza esagerare guarda pesava se no 4 litri, grandissima, una mela golden, proprio buonissima, proprio di quelle farinose, proprio quelle che piacciono a me, perché sono buonissime, dolci, perché mi piacciono le cose dolci, capito? Per cui sono, diciamo che no, già mangio, però mangio 2 volte al giorno, cioè 2 volte, 3 volte, la mattina mangio dello yogurt, mangio. E poi la mattina quando salgo, quando esco di casa, come stamattina ad esempio, nonostante che lei c'era una giornata abbastanza fredda, ma già ero ben coperto con un giubbotto lungo e molto pesante. Sai quando sono andato, io con un amico sono andato, anziché andare lì al Moccadon di Via Pascoli, come solitamente facciamo la mattina, prendere un caffè, un cappuccino, quello che capita. E sono andato lì in Via Lussati, da Secchi, ti puoi immaginare. Così abbiamo fatto 4 passi e abbiamo preso il caffè, io per la verità ho preso un cappuccino lì da Secchi e una frittella di quelle col buco, buonissime, perché Secchi è straordinario per i dolci. Stanotte per esempio una notte di delirio, ho dormicchiato da prima, no, però senza impegno. Poi alle 5 di mattina mi sono svegliato per andare in bagno. Ho visto che mamma si è accesa la luce, anche lì si è svegliata a quell'ora, lei ha attaccato a mangiare patatine fritte in sacchetto, no? Quelle San Carlo, fai, cosa sono? E io sono andato in cucina alle 5 di mattina, mi sono fatto un tramezzino, maionese, tonno e pomodoro e mi sono mangiato quello. E poi mi sono ricoricato, si è riaddormentato. invece roba da matti, proprio orari folli. Ma no, guarda che io non ti credere che in fondo caso, tanto per fare un esempio, ad esempio ieri no, avanti ieri notte avevamo la pizza qua e abbiamo comprato anche la fainé, abbiamo comprato un po' di fainé e più la pizza, vabbè. Naturalmente questa fainé, siccome era tanta, ne sono abbastanza. L'indomani mattina, ancora dentro il suo cartone, sai, quei cartoni che danno loro, perché noi la portiamo a casa, no, è vicino qui il forno, non è che sia molto volontà. E l'indomani mattina, alle 8:30, quando mi sono alzato, mi sono messo a mangiare fette di fainé, per dirtelo. Non si crede che io ci penso due volte, no? Capita. Se dovesse succedere, per dire che dalla notte magari mia moglie ha fatto un minestrone, eccetera, la mattina non ti crede che io ci penso due volte a mangiarlo. Oltre allo yogurt, tu è che prendo sempre un bicchiere a 200 cc di yogurt tutte le mattine, un yogurt intero. Per dirti, no, come... No, non ti scandalizzare se mangio di lì, fammi la torre la mattina alle 8:30, magari è avanzato dalla notte. No, no, io non mi scandalizzo, te l'ho detto io, te le corri la notte, te le immagini. Ciao, sono andato in bagno, poi avevo questo langurino, c'ho una voglia di tramezzino, e me lo sono fatto in un minuto, mangiato e ricoricato, e riaddormentato. È così, deflescia, ma anch'io ho orari strani, io mangio quando ho fame, se ho voglia di mangiarmi pizza alle 6 di mattina, alle 7 di mattina, alle 8 lo faccio, anche pizza con peperoni, quello che c'è, tanto digerisco bene o male tutto, non ho problemi digestivi. Chiamo ferro, aspetta, ormai ho parlato. Vabbè, certo che cosa c'è di trappolo, no? Nessun problema, figurati. Sì, no, ma io non è che sto lì a guardarlo il cibo, io mangio e basta, no? Per cui non è un problema. Per dire, no? Cosa ti volevo dire? ti faccio schifare un pochino. Mi avevano mandato un messaggio su WhatsApp tempo fa e c'era questo tipo, a un certo momento completamente nudo era, no? E ha preso uno delle fette biscottate, di quelle grandi però, non di quelle solite piccole normali, che... no, queste grandi, ma grandi della grandezza che so io, all'incirca di 20x20 di grandezza come minimo. L'ha presa e l'ha messa per terra, si è inchinato e ci ha fatto i suoi bisogni sopra, su una di queste fette biscottate, anzi pancarre era, non le fette biscottate, pancarre era, e poi ne ha preso un'altra fetta e ce l'ha messa sopra, l'ha preso e ha cominciato a mangiare. Una cosa così schifosa che ti c'è da un accidente, sarà meglio detto, ma quando mai una persona fa certe cose? Uno schifo, ma veramente uno schifo, non è possibile. Lo so, non mi hai detto nulla di nuovo, lì è pieno di quelle perversioni. Basta cercare su Google scat fetish, c'è in tutti i colori, la gente è matta. Ma io nella mia banalità non ho mai pensato a queste cose folli. Sì, ne vuoi tutti i colori, di tutto e di più. È un pozzo senza fondo internet, e tu pensa che quello che vedi è su internet, poi c'è il dark web, c'è molto ma molto peggio, è proprio un pozzo senza fondo, è una cosa folle, poi lì è anche pericoloso navigare, trovi assassini, mancanti, degli hacker, meglio non entrarci là, a parte che ci vogliono programmi appositi. No, a parte il fatto che non lo so usare molto il computer, poi no, non mi interessa poi più di tanto, io guardo solo i giornali, guardo le radio, posso guardare anche su io la carriera di un cantante, di queste cose qua, insomma, niente di particolare, ma diciamo che tutti i giorni il giornale lo guardo e non lo leggo, il giornale sul computer. E non solo il giornale quotidiano di Sassari, ma anche i quotidiani sportivi, come Tutto Sport, la Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, questi giornali così. E intanto sono a casa, cosa faccio? E a me in qualche maniera il tempo lo devo pure trascorrere, no? Per cui stare sempre inchiodato davanti alla televisione, perché la sera non esco mai, difficilmente esco, salvo che magari, non so, mi telefonano i miei familiari, quelli, i fratelli, eccetera, cognati, eccetera, e magari andiamo in pizzeria, queste cose qui sì, però difficilmente, perlomeno in inverno, difficilmente io esco la sera, molto difficilmente, a meno che non devo comprare qualcosa, o se devo andare dal medico per farmi fare delle ricette, beh, è ovvio, queste cose le fai, però uscire di proposito, proprio per andartene in giro, non è che ci vado, sì, capita, già mi è capitato diverse volte, ma non più di tanto, Marco. Poi Sassari non è che offra molto. Sì, si può uscire al centro, ma è tutto Billoi, Piazza Castello, tutto Billoi, giovani, strafottenti, Billoi. E certe volte vanno, stanno proprio lì per cercare la rissa, capito? Trovano qualche scusa per provocare. E poi sono intoccabili essendo minori, capito? Guai a dargli uno schiaffo, un calcio nel sedere, già capito? Arrivano i genitori a difenderli, oltre che sono i Billoi, i figli, giustamente se sono Billoi i genitori, figurati come sono i figli, capito? E gli danno ragione in tutto e per tutto, no? Non esiste, no? Un'altra epoca, persino io sono già di un'altra epoca. E poi a me, lo sai che mi ha fatto da padre nonno e lui era antica, insomma, molto antica. Mi ha mai obbligato né condizionato a far nulla, ma insomma, già capito Giulio, no? Certo, anch'io sono cresciuto così, con una certa educazione, sai, un po' antica anch'io, è ovvio che mio padre pensa che avrebbe avuto adesso 100, avrebbe avuto 104 anni, ci puoi immaginare, se fosse stato in vita, è morto già 27 anni, per cui, no 27 anni, sì, allora siamo nel 99, sì, 20, no 22 anni è morto, no 27 anni mio padre è morto, sì, aveva 82 anni quando è morto, era malato però, ed è per quello. Ha lavorato una vita, 50 anni e oltre, 53 anni per la verità, e poi naturalmente si sa, ha fatto grande 7 figli, sette figli ha fatto grande, perché noi siamo una famiglia numerosa, 4 maschi e 3 donne a casa, anche mia madre è morta un anno e qualche mese fa, mia madre aveva 95 anni circa quando è morta. È morto un anno e due mesi, dai. Un anno e due mesi per l'esattezza, è morta. E vabbè, purtroppo la vita è così, prima o poi si interrompe per ovvi motivi, no? Lo sappiamo benissimo. Ma per dirtelo, anche io sono cresciuto con una certa mentalità di una volta, anche perché sono stato responsabilizzato subito da ragazzo, essendo il primogenito a casa, ho cominciato a lavorare che avevo 10 anni e mezzo, si può immaginare, e facevo da casa a scuola, da scuola a lavoro, da lavoro a casa e così via. Nonostante tutto sono riuscito a prendere il diploma di geometra, però purtroppo non ho fatto mai gli esami di Stato, perché in realtà mio padre era anche invalido, non ci vedeva molto bene, e allora ho dovuto contribuire io finanziariamente a casa, ho dovuto guadagnare anch'io, tant'è vero, prendevo anche gli assegni familiari per i miei fratelli. Allora, già dall'età di 15 anni mi sembra, che allora si poteva essere assicurati da giovani e si potevano prendere gli assegni familiari. Per dirti, no, nonostante tutto, dunque ho condotto una vita sempre intanto di sacrificio e allo stesso tempo anche di grande responsabilità, oltre al fatto che poi ho fatto 15 anni di palestra, di sport, e nello sport si sa, c'è sempre da stare bene e soprattutto si riceve anche una certa educazione. E così Marco, non ho mai fumato, non ho mai bevuto alcolici, e ancora oggi non bevo alcolici, tutte queste cose. Sono creato una famiglia, ho sempre lavorato, ho 47 anni sposato, a differenza dei giovani di oggi che dopo quelle decisioni che si sono sposate si separano, una vergogna, per me è una vergogna. Poi, vabbè, i tempi sono cambiati e purtroppo è così. Le prendi? Parecchio cambiati, parecchio. Sì, per dire, nei tempi di nonno non ci si separava, magari non si andava d'accordo. Per esempio, nonno ha fatto la seconda guerra mondiale e la terza. La terza guerra mondiale era il matrimonio con mia nonna, capito? Che era pugliese o non mi ricordo se pugliese o calabrese, insomma, è stata una guerra quel matrimonio, però non ci si lasciava, si litigava, e non solo, però adesso è una barzelletta. Ma io dico, ma questi che si sposano in chiesa, no, dovrebbe essere un sacramento, già la definizione sacramento è una cosa sacra, è una barzelletta, è una presa in giro per la religione anche per loro stessi. E comunque Giulio, è vero anche che non basta una vita per conoscere una persona a fondo, non basta una vita, anche convivendo la vita, tu la persona, uomo o donna che sia, comunque non la conosci mai abbastanza, può dare sempre sorprese, quando meno te l'aspetti. Beh certo, io odio le persone che non hanno rispetto per gli altri, perché non è giusto, e soprattutto odio la maleducazione, ci mancherebbe altro. Tanto perché poi anche il mio sistema di vita che io ho ricevuto a casa dei miei familiari, poi è continuata anche qui a casa mia, perché per dire, no, intanto mia moglie è anche di famiglia nobile, tra l'altro, tu pensa che, tanto per dirtene una, la nonna di mia moglie è la contessa, era lo zio era un arcivescovo, tant'è vero c'era ancora il busto a Cagliari, il mezzo busto, tutta gente naturalmente ormai è deceduta. L'eroe di guerra Francesco Baracca era il fratello del nonno di mia moglie, per dire, no? Tutte queste cose, figurati se io, la madrina di mia moglie era la moglie del capo della polizia italiana, che poi ha fatto anche il questore qua a Sassari e poi è diventato prefetto, poi l'avevano trasferito poi a Caserta, e insomma, perché era il capo della polizia italiana, per dire, io sono vissuto sempre in un tipo di persone, con un tipo di persone di un certo rilievo, anche se vogliamo, no? Per cui figurati, a parte il fatto che io sono sempre stato tranquillo, non ho mai avuto una contraddizione, ma no, non io, no, ma né io né i miei fratelli, nemmeno per diventare sosta, per dirti, no, la nostra filosofia di vita è sempre stata quella, non è che mi sto vantando, però per dirti, perché ce ne sono tantissime persone che hanno condotto una vita esemplare, ma io mi ritengo solitamente soddisfattissimo della vita che ho vissuto, anche se devo dire ho sacrificato tanto, perché ho lavorato 62 anni, non un giorno, 62 anni, ancora oggi sto lavorando. Tu mi dirai, maestro, stai lavorando per gusto più che altro? Sì, in effetti è vero. Adesso in questo momento sto facendo la catechesi a mia figlia che è quasi finita, infatti la sto già verniciando, crediti per l'ufficio e così via, o Marco. Invece io quando guardo indietro, cosa vedo? Ben poco vedo guardando dietro. D'altronde avanti non si può andare, non si può guardare oggi, per quanto mi riguarda non posso nemmeno guardare avanti, è meglio guardare dietro allora, per carità. Lasciamo perdere. È tutto strano adesso, ma io mi ricordo le foto dei marinai, dei compagni d'armi di nonno, era raro vedere persino un marinaio con i tatuaggi allora, e se ce l'aveva di solito era stato pure in galera, i marinai erano tutti lisci, senza niente, adesso è una cosa, poi certi sono brutti, diciamo, certi sono opere d'arte, vabbè, però io su di me non ne voglio, su di me non voglio niente. Non voglio niente, ma mi ricordo che i racconti di nonno, che c'era quel principe, come si dice, principe Umberto si chiama, quello alto, che era un po', lo sai che convocava dei bei ragazzotti, ogni tanto ne sceglievano a turno, e lo convocava nelle stanze di notte, quelli però non ci andavano, capito? È un po' ricchioncello era, me. Cose viste da lui, non a buffonatura. Ok, tu pensa che c'è anche l'altro fratello ancora del nonno di mia moglie, quell'altro è scrittore, uno era prete, anche il vescovo era, l'altro era scrittore, l'altro era eroe di guerra, quello che aveva battuto 35 aeroplani, tanto è vero il cavallino rampante, quello della Ferrari, e quando è morto Francesco Baracca, la moglie l'ha regalato a Ferrari, ecco perché sulla macchina Ferrari c'è il cavallino rampante, per dire, no, quello lì era del fratello del nonno di mia moglie, era, che ce l'aveva sull'aereo, ce l'aveva lui. Quando pure lui è morto, allora la moglie di Francesco Baracca l'ha regalato a Ferrari. Infatti se tu avrai studiato la storia, sicuramente lui è sui libri di storia, eccetera, eccetera, no? Per dire, e l'altro era scrittore, l'altro addirittura poi quando aveva avuto una paralisi alle mani non poteva più scrivere e allora scriveva coi piedi, si metteva la penna tra le dita dei piedi e scriveva coi piedi. Il caso voluto che anche lì si sono paralizzate le gambe e non poteva più scrivere nemmeno con i piedi, allora scriveva con la bocca, guarda cosa vuol dire, per dirti, no? Questa è tutta storia, che risulta ovviamente. Per dirti, come fai tu a condurre una vita così da scapestrante? Non è possibile, dai, ti devi comportare bene, o Marco. Meglio. Anzi, è già tanto che tra pasticci fatti in gioventù non si è successo niente, cerca di capire. Anche con le ragazze sono stato sempre attento, perché poi, mamma mia, poi quella che ho avuto io si volevano tutte sposare, mamma mia, poi quelle dei paesi non te ne racconto nulla, mia. Proprio l'idea era il matrimonio, mamma mia, io come sentivo quello mi si gelava il sangue, non, è inutile, io non sono mai stato portato per il matrimonio, non lo ero prima, non lo sono adesso, come diceva Alberto Sordi, che era scapolone, dice, ma perché, gli dice, io mi devo mettere un'estranea in casa, cioè, io alla fine i veri parenti di sangue sono i veri parenti, gli altri sono estranei e sono parenti acquisiti quelli. Becco. Avanti Becco, buonasera. Buonasera Fabrizio, ciao Gio Maria e ciao a tutti. Ciao Fabrizio, grazie, è un piacere di ascoltarti. Questa è la radio che tu mi hai sistemato, Fabrizio. Ho saputo anche della tua sfortuna e mi è dispiaciuto tantissimo. Vabbè, tutto passato, adesso hai modo di riprenderti sicuramente. Avanti Fabrizio con la buonasera. Sì, ciao a tutti, ciao Giulio, ciao Marco. No, sono entrato un attimino, sì, disavventura, vabbè dai, è andata come doveva andare. E quindi niente, sto iniziando a mettere mano un po' a tutte le apparecchiature perché non se ne è salvata nemmeno una. E questo è l'Ovimila. Sto facendo delle prove perché l'antenna 27 l'ho messa a posto, adesso dovrò mettere a posto tutte le altre antenne, comprese tutte le radio, perché sono state tutte quante bruciate, non se ne è salvata una. E quindi adesso una gran parte l'ho messa a posto e il resto piano piano ci sto lavorando su, ma alcune saranno recuperabili, alcune no. Ascolta, volevo regolare la radio in AM qua, sul adesso sono senza processore, come Mickey Game. Guarda, adesso ho aumentato un po', è troppo alto o devo abbassare? No, è piacevolissima la modulazione, va benissimo, Fabrizio, va veramente bene, chiara, pulita, non ci sono problemi, guarda, veramente bella. Se poi vuoi mettere anche il processore, vediamo un po', e così ti do la mia opinione sulla modulazione col compressore. Allora, ora ho inserito il processore, sono al 50% come processore, dimmi un attimino come sta uscendo, fai favore Giulia. Che per favore, stiamo modulando un po', mi ci mancherebbe, e già la cortesia che hai fatto tu a me, guarda, è impagabile, per cui l'ho sempre detto e continuerò a dirlo anche per questa quando dovesse capitare l'occasione per poterne parlare. Va benissimo, va via, anzi è anche troppo forte per troppo, va benissimo veramente, ottima. C'è anche Marco che ti può dare anche lui la sua opinione a riguardo della radio. Avanti Marco per Fabrizio. Ciao Fabrizio, sì, come ha detto Giulio, era buona prima, adesso è aumentata abbastanza di volume, suoni abbastanza bassi, mi sembra di poter dire, sì, abbastanza calda come modulazione. Ma perché? Cosa è successo? Ero all'oscuro io. No, niente, è caduto un fulmine, aveva preso fuoco proprio la casa, ma proprio fuoco la casa. Oltre che poi ha bruciato tutte le apparecchiature, televisori, frigorifero, quanto, poi del stazione radio proprio ha fatto tabula rasa, non si è salvato niente, mi ha fatto più danno in stazione che nell'appartamento. E in questo passaggio magari ho aumentato, ho dato una regolata, poi mi direi se è troppo forte o se devo abbassare il processore, ma forse va bene. E quindi sto lavorando un po' sulle radio, non mi direi, solo sto facendo una riparazione, l'ho rimontato. Niente, qualche VHF l'ho salvato, l'ho messo, adesso c'ho 440 aperto sui finali bruciati, 790 bruciato, 910 bruciato, 2725 bruciato, schede e accordatori bruciati, tutti i battimetri bruciato, tutto si è salvato, tutto quello che è in stazione è stato danneggiato, parte l'ho riparato e parte ci sto lavorando e parte credo che non sia riparabile. Aspetta, io vivo nel terrore dei fulmini, no. La 58, cioè io proprio c'ho una paura ancestrale dei lampi, stato piovendo l'antenna sopra, caspita, in piena città, cavolo, mamma mia, sia mai, non voglio nemmeno, non ci voglio pensare nemmeno, guarda. C'era Walter tre quarti d'ora fa, stava provando dalle radio, poi non è entrato nessuno, a chi uso c'avevo da fare, forse rientrava dopo ma non è entrato. Allora abbiamo, siamo ascolto, Walter, sì. Non è il caso, però questo mi ha reso, diciamo, un po' di malumore il giorno che mi ero saputo la storia. Vabbè, dai, riprendi ancora, fai girare tu per Marco. Sì, faccio girare io, però vi siete sovramodulati. Sì, no, vabbè, guarda, alla fine ho dovuto rifare la cucina completamente, sia... l'aveva fatto il falegname, io avevo una cucina fatta dal falegname, quindi ho richiamato il falegname che anche lui come tiene in pensione, però ancora qualche lavoretto lo fa, quindi si è portato la cucina a Itri e mi ha ricostruito tutta la parte bassa perché ha preso fuoco, poi gli elettrodomestici li ho sostituiti, il placcaggio l'ho rifatto, gli intonaci li ho rifatti, il pavimento l'ho sostituito, il danno grosso era in cucina. Poi ho dovuto fare tutto l'impianto elettrico nuovo, quindi ho dovuto fare delle tracce perché poi aveva fuso l'impianto elettrico, era completamente fuso, quindi ho fatto tutto l'impianto elettrico, ho dovuto far rilevigare tutto il parquet e ho ripitturato tutto l'appartamento, quindi praticamente ho rifatto tutto, compreso contro soffitti, ho dovuto rifare eccetera eccetera. ho rifatto praticamente tutto, televisori nuovi, cioè, DSL, tutto completamente, tutto quello che era collegato alle prese è saldato in aria. In stazione si sono salvati solamente tutti gli apparecchi da laboratorio, oscilloscopi, analizzatori di spettro, twin set, frequenzimetri, generatore, tutta quella roba lì si è salvata. Per il resto è partito tutto, dal computer al monitor, a tutte le radio, anche quelle che sembravano a posto. Quando ho comprato il computer nuovo collegato al monitor, anche il monitor non interallacciava, quindi aprirlo, controllarlo, ho trovato il problema lì, poi ordinare i pezzi ha messo quasi 20 giorni perché li arrivano dall'Inghilterra, questi cavoli micro iodi particolari servono per switchare, dai. E quindi il monitor l'ho riparato, il PC ho preso nuovo, sono riuscito a recuperare il disco dentro suo che era con tutti i dati. Quello che è successo poi le cassette tecniche del coso sono partite e quindi ci ho lavorato. Il 9000 è l'unico praticamente, meno male che bene o male si è un po' salvato, scuso qualche fesseria, comunque è tornato a posto, poi tutto il resto dall'accordatore da palo, il controller delle antenne, guarda, oggi è arrivato il processore del controller delle antenne dinamiche, se c'è l'antenna dinamica, quindi il processore, perché è andato in corto anche quello, quindi la scheda l'ho riparata, non c'era il corto sul processore, adesso l'ho disaldato, l'ho dato a Massimiliano perché è un processore che sta dentro grande quanto un pollice, c'è cioè 100 piedi da saldare, quindi ci vuole lì, nemmeno con l'attrezzatura aria calda che io riesco a farlo, quindi l'ho dato già a Massimiliano, quindi messo lunedì me lo riporta, gli saldo quello, lo devo spedire a Milano a riprogrammare, l'ho riprogrammata quella scheda, se non riesco a muovere le antenne, poi dovrò abbassare le antenne perché sulle antenne parte funzionano, parte hanno stazionari, quindi quelle VHF, l'antenna delle VHF, quella in punta, la 7000 l'avevo piazzata nemmeno una settimana, non esiste più la sciolta, l'antenna quella con la 27 l'ho ricostruita l'altro giorno, infatti la sto provando adesso che è perfetta, quella la verticale multibanda esploso, l'accordatore avevo detto da palo, esploso, ce l'ho qua, l'ho aperto, l'ho riparato, ma c'è qualcosa che non va, quando cade un fulmine difficile. Il 27-25 ho cambiato il prefinale, adesso ho ordinato i finali perché è partito anche quello, il 4.40, uno dei 4.40, meno male il 4.40, il 4.30, uno il 4.40 e l'altro 4.30 erano scollegati, mentre uno 4.40 che era collegato sembrava tutto a posto, poteva trasmettere e ha scaricato sui finali, quindi ho ordinato i finali, adesso dovranno arrivare. Il Perseus è morto, il 910, quello con i 1200, bruciato, cambiati i finali, sono arrivato, ho fatto già le riparazioni, era tutto in corto, ho tolto il corto, è stato, la ripresa funziona, cioè acceso, funziona a parte, ma non trasmette, non riceve, non riesce a cambiare, passare da VHF, quindi sarebbe una sberla sulla questa la madre, quindi praticamente irreparabile. Il 790 lo stesso non si accende, quindi nemmeno l'ha controllato, è entrata una sovrattensione dal microfono, tutto così, c'è tutto quello che adesso mi gira intorno, i wattmetri della Vai, va tutta la serie dei 1200 che sono esplosi, ma lì li ho messi a posto, tutti i controller sia delle antenne che mi fanno i movimenti verticali, orizzontali delle antenne, delle direttive delle VHF, quello lì lo stesso l'ho riparato, il controller del rotore lo stesso ha problemi, mezzo riparato, devo abbassare le antenne perché mi hanno fatto partire anche il potenziale interno del coso, praticamente non si è salvato niente, un disastro, un danno da decine di migliaia di euro sulla stazione, ha fatto più danno in stazione che a casa. Non è possibile, questa è proprio una scalogna, è stata questa, mamma mia, oh, mamma mia, ma io speriamo che tu riprenda tutto da capo di nuovo, in modo che si piatta e tutto come la meno, ti dimentichi anche dell'incidente che è stato. E il fulmine è maledetto veramente. No, a me un paio d'anni fa mi aveva bruciato un fulmine che tra l'altro non è caduto qua a casa, ma è caduto in una casa vicino, in India d'aria, a distanza di 200 metri da dove abito io. Era caduto su un'antenna TV lì in questa casa, però ha danneggiato mezzo di punti, ha danneggiato. A me mi aveva bruciato due baracchini, uno alimentatore da 25 ampere switching, aveva bruciato, poi avevo un linearetto 747, avevo, che poi tra l'altro io non lo usavo mai perché sono stato sempre contrario al lineare, però ce l'avevo e me l'ha bruciato anche quello, per cui nonostante che non era caduto sulla mia antenna, ma sull'antenna che da una distanza di 200 metri da dove abito io. Poi tra l'altro un giorno avevo fatto danno anche alla pasticceria qua che c'è vicino a casa, di fronte a casa, e gli avevo bruciato il gruppo elettrogeno a un gommista che c'è sempre qui nella Borgata, a distanza di 800 metri, gli avevo bruciato il motore compressore, e poi per non parlare poi tante frigo che avevo bruciato eccetera eccetera, diverse persone, per dirti no, il lampo, il fulmine è maledetto, e non, mamma mia, figurati quando cade su di una persona che cosa si sceglie, la fa rosso e basta, almeno quello, mamma mia, oh, che tragedia a volte, questi sono destini assurdi, crudeli addirittura. Avanti Marco. Cioè, per come l'ha descritto Fabrizio è una cosa allucinante. Mamma mia, ma è passato dall'antenna o dalla linea elettrica? Dalle antenne? No, è passato da tutto, perché come ha detto qua, non è caduto proprio vicinissimo, ma la corrente indotta è quella, perché quando cade un fulmine all'interno, anche lì quello dell'antenna, ha scaricato lì come l'altro, ma il fulmine quando cade apre la parte di palazzo in due, quindi proprio lì ha scaricato, non so dove ha scaricato, proprio attaccato vicino a me, ma un po' tutto il quartiere, siccome ha scaricato su tutte le parti metalliche, quindi mi ha scaricato sulla trave di casa, quindi più che le cose, però poi io ho detto ma c'era l'antenna che è sparita in verticale, poi ho iniziato a vedere anche l'antenna che avevo da una parte al terrato, l'antenna che avevo dall'altra parte, le antenne della televisione, lo stesso ha bruciato tutte le centraline, e quindi praticamente tutte le parti metalliche, il palazzo affranto a fianco c'erano gli scossalini, come cavolo ci sono quelle parti in alluminio che vengono messe intorno o per protezione di bellezza, non so, sul marrone, quelle le ha aperte, il bar che ha 300 metri ha chiuso 3 giorni perché ha bruciato macchinette e quanto c'era, quindi è stata una corrente che qualsiasi parte metallica ha scaricato, quindi volendo più parti metalliche magari ha fatto poi essendo all'ultimo piano, ma comunque avrebbe scaricato lo stesso, il danno magari se fosse stato in una situazione normale mi avrebbe bruciato un po' come a tutti, perché qua ha bruciato tutti gli scaldabagni, non se ne è salvato uno, infatti a me oltre la scheda della caldaia mi ha bruciato anche la scheda della pompa della caldaia, ho fatto un danno, però voglio dire alla fine è probabile che ha scaricato su qualsiasi parte elettrica, acqua, tubazioni, gas, tutte le parti ha scaricato, quindi non è che ha scaricato proprio lì, e quindi avendo ovviamente io più parti metalliche ha scaricato su più parti, ma alla fine il danno è entrato dalla corrente, poi il grosso, perché dove ha preso fuoco, e la sfortuna è stata che gli ha avuto due principi di incendio, un principio di incendio e un incendio, perché uno l'ha avuto in stazione radio che esplosa il filtro di rotte che avrebbe esploso, e quindi come esploso quello, perché è tutto successo dall'impianto elettrico, e ha preso fuoco la poltrona, e quindi stava prendendo fuoco lì, ma lì meno male c'è stata mia moglie pronta e riuscita a spegnerlo. Il problema è che poi ha preso fuoco il tubo del gas della cucina, perché se non avesse preso fuoco il gas praticamente avrei fatto solo danno all'apparecchiatura e non all'appartamento, invece ha preso fuoco il tubo del gas della cucina, quindi sono dovuto intervenire i pompieri e spegnerlo con l'acqua, praticamente chiudere il gas e spegnere l'incendio, e il danno è stato quello. È stata proprio una tragedia, è stata quella in quel giorno lì, mamma mia, è troppo pericoloso, tu pensa che quando era caduto il fiume da qui alle punti aveva incendiato anche il tubo del gas, aveva incendiato, infatti sono arrivati i pompieri, sono arrivati quello che c'è all'ingresso della casa, lo per strada, anche quello l'aveva proprio bucato e c'era incendiato dalla perché lì fuori usciva il gas, si usciva e si è incendiato, tutte le fiamme alte, sono arrivati i pompieri per spegnerlo. Ma io non mi dimenticherò mai una volta che mi ha chiamato la buon'anima di Gavino rubato, no? Gavino Passero, allora la frequenza si chiamava il Baracchino, che poi era diventato Radio Amatori, già lo sai. E mi telefona la mattina, Giulio vieni a casa che ti devo far vedere una cosa, mi fa, che cosa c'è? Vieni, che una cosa curiosa, altro che curiosa era. E gli era entrato il fumo dentro casa, gli era entrato, lui dietro la porta di camera a letto aveva la scorta dell'olio, no? Si aveva fatto la provvista dell'olio, si aveva fatto, e c'era un lavone di 100 litri di olio o Fabrizio. A questo punto questo lampo è entrato proprio nel lamone, gli ha folato il lamone come quando tu prendi un elettrodo, no? E buchi la lamiera, è incominciato a zampinare olio, si è trovato 100 litri di olio per terra, si è trovato, ti puoi immaginare il disastro che è successo in quell'appartamento il giorno, oltre al fatto che gli aveva bruciato tutto lo stesso, completamente, anche l'impianto, eccetera, un sacco di danno gli aveva fatto. Il danno dei lampi è fortissimo, per dire, no? È pericolosissimo, speriamo che non succeda mai, per carità. Una volta che ho ripunti nel campo di calcio che c'è lì verso la Viglia, mi aveva raccontato Roberto, era caduto un lampo sull'albero, l'ha troncato in due, proprio troncato in due l'albero, un albero abbastanza robusto, per dire, no? Fortunatamente lì era campagna, non c'era nessuno e non ha fatto danno alle persone, ma per dire, è pericolosissimo, altro che... Riprendi, Tobi? Sì, lo so, però quando capita, ma ho capito che stai dicendo, quello non era sull'antenna, quello che ha preso fuoco è Italo, il mio collega, che abbiamo lavorato tanti anni insieme, quello lì è... aveva un'antenna, se non sbaglio, verticale, proprio gli è caduta sull'antenna verticale, che ha preso fuoco tutto, gli ha bucato anche il tetto, dovrebbe essere lui, di fronte all'ingresso praticamente di punta, di fronte ai supermercati, al bar, dovrebbe essere quello, se non sbaglio. No, quello è un altro, quello è Italo, sì, ho capito, quello è un altro, no, proprio Gavino rubato, si chiamava, è deceduto, guarda che era ex infermiere al manicomio per anni ha lavorato, però era in pensione e dunque un vecchissimo CB, vecchio quanto me, di militanza in frequenza, perlomeno iniziando con la CB, un mese dopo di me era entrato, esattamente nel 1962, tu puoi immaginare. Vedete, no, Gavino rubato, gli era entrato questo fulmine in sua casa e gli aveva folato il lamone da 100 litri di olio ed era pieno questo. Ha incominciato a zampillare, ti puoi immaginare come fai tu a fermare l'olio, gli aveva fatto roba e 7-8 buchi nel lamone, ha incominciato a zampillare l'olio, ti puoi immaginare, fin quando non è arrivato alla parte bassa dove non c'erano più buchi, non ha smesso di zampillare, di venire fuori l'olio. Povera Giovanna, caspita, e cioè la moglie che modulava anche lì, Bettina si chiamava al baracchino, Giovanna di nome, e ti puoi immaginare il giorno che la fatica che ha dovuto fare per pulire la casa con tutto l'olio che gli era caduto per terra, cose tremende, per carità, mamma mia, speriamo che non succeda mai più una cosa del genere, perché è una cosa molto ma molto pericolosa. Anche il router mi aveva rubrucciato a me la volta, perché questo che mi è venuto in mente, il router del computer, anche quello l'ho dovuto cambiare, perché me l'avevo bruciato. E vabbè, sono momenti bruttissimi. Vai Marco. Io, come ho detto prima, che avevamo parlato insieme, ho una paura proprio ancestrale dei lampi. Perché io credevo che anche andando a piedi durante un temporale, quando ci sono fulmini, fosse una su un milione la cosa di essere beccati da un fulmine. Invece da una statistica, poi bisogna vedere se è giusta, una su 3.000. La probabilità di essere beccato da un fulmine quando si è a piedi durante un temporale. E mi sembra molto alta come probabilità. per carità, anche quando tengo quegli ombrelli con la secca metallica, mamma mia, e purtroppo non ci puoi fare niente, ma lì credo che non c'è messa a terra che tenga, no, non c'entra nulla, si porta via tutto, per carità, se ne va, distrugge tutto quello che c'è, ha collegato le prese elettriche, tutto, carica batterie, mamma mia, no, mai sia, poi magari sai come sono i condomini, no, vanno a dire che, come avevano detto a Claudio, che i fulmini attiravano le antenne, quando era caduta sulla cabina elettrica il fulmine, no, a 200 metri da Claudio, e volevano fare una casa perché le antenne attiravano i fulmini, ma quello dove cade, cade. Infatti non era caduto sulle antenne quella volta, ma vai Fabri. Vale, poi bisogna vedere quando si raccontano le cose anche. Sì, è così, non, vabbè, ma un po' come interessa io. È vero che quella vicina ha fatto un po' di proteste, ma qui ci sono stati dentro i vigili del fuoco, infatti la prima cosa che hanno detto, ma questo che lavoro fa? Sono lì, sono convinto che facciamo un lavoro qua dentro, perché dopo quelle apparecchiature che hanno visto, sono un hobby, no, ma come può essere un hobby in tutte queste antenne, queste cose così, cioè hanno visto cose mastodontiche. Niente, l'indomani sono andato, ho portato tutte le autorizzazioni e lì è finita, sì, hanno visto tutte le autorizzazioni, hanno visto che tutto era da lavorare, avevo tutte le autorizzazioni, tutto quanto, pace, poco da rompere le scatole, secondo me che l'importante è avere le cose in regola, no? Io ho la patente, ho l'autorizzazione a trasmettere, ho tutto, e cose non è che te, sto facendo una prova, sto aumentando un po'. Quindi non è che poi alla fine possono rompere le scatole più di tanto. Se uno ha voglia di spendere soldi e fare causa o di chiamare l'organo competente, chiamino pure, io sono in regola, non ho nessun problema. Ci mancherebbe, io lo credo, guai se non fosse stato in regola, perché ti avrebbero fatto sicuramente una grandissima multa, ma siccome so benissimo che tu sei tranquillo, in regola in tutto e per tutto, anche il lavoro fatto a dovere, a regola d'arte, per cui non ci sono problemi. Sì, ma non è escluso che Itamo sia stato danneggiato magari lo stesso giorno che era successo questo gavino rubato, perché tra l'altro abitavano anche vicino, il gavino rubato abitava all'ingresso lì per andare a Latte Dolce, o dove c'era una volta il mulino, che poi tra l'altro quello del mulino mi sembra che era il padre addirittura di gavino, e lui abitava sopra al mulino, e Itamo abitava lì di fronte al giardino della agraria, dai. Probabilmente lo stesso giorno che ha danneggiato a Gabino, ha danneggiato anche a Italo o vabbè, qua sì, adesso io non mi ricordo, sono passati tanti anni, ma suppongo che sia stato così lo stesso. Ma non lo so, può darsi pure, non lo so, insomma io ricordo questo particolare qua, io poi per il resto non è che ricordo esattamente cosa aspetta, ecco qua, cosa sia successo, non lo so. Comunque, quando deve capitare capita, non c'entra niente, né antenne né niente, quando deve capitare capita, non te ne posso raccontare tantissimi di fulmini, a me è andata anche bene, perché bene o male la famiglia non si è fatta male, quindi i problemi non ce ne sono stati, il danno è stato relativamente limitato perché l'incendio è stato domato subito, quindi non ci è passato tutto l'appartamento, nel senso che non ha preso fuoco solo un paio di parti, poi ovviamente ho dovuto rifare tutto, però quindi poi alla fine niente, sono stato dopo un mese e mezzo, sono riuscito a rientrare a casa, dopo, quindi va bene anche, ho ristrutturato tutto, non, grazie a Dio non è che sono dovuto andare a chiedere niente a nessuno, ho fatto tutto e via. Quindi diciamo che nel complesso va bene, non è successo niente, c'è cose di molto peggio, non, va bene così, non, per me non è successo poco e niente, per come la vedo io. Vabbè, io capisco benissimo, ed è giusto anche che tu la pensi in quel modo, però devo dire che il danno c'è stato e indubbiamente non è una cosa certo piacevole, ci mancherebbe, per carità, mamma mia. Adesso meno male tu già sei in grado di raggiungere subito, ma tu immaginati che se fosse capitato a una persona che ha meno possibilità, eccetera, e sarebbe stato proprio una distruzione quasi personale, per cui, ma comunque speriamo bene sempre nella vita. Una cosa è certa, ci vuole sempre tanta fortuna nella vita, in tutti i sensi, non solamente in fatto di questo genere di incidenti, eccetera, eccetera, ma anche in fatto di salute, eccetera, è quello che conta, la salute in primo luogo, ci mancherebbe altro. Speriamo sempre bene, o Fabri. Con tutto il bene, ripeto, che ti voglio come amico, figurati se io no, ma non solo a te, ma a tutte le persone, perché sarebbe da crudeli andare a dire le cose diversamente da quello che sto dicendo, contro le persone stesse, ci mancherebbe. Avanti Marco. Vedo una portantina, chi è che vuole entrare? Nada? No, credo fosse Eugenio. Giulio, se capitasse qua, la nostra rovina, ci abbandoniamo l'appartamento direttamente. E cosa puoi fare qua? Poi per l'incendio già ci pensa mamma, che quella volta anche andata mezza cucina. E meno male che mi sono svegliato io nel pomeriggio. Vado in cucina vedo le fiamme, mamma mia, mamma li turchi, meno male che era, sono bastate due secchiate d'acqua, ma se scoppiava la bombola, ciucciù. E mamma era pericolosetta, adesso anzi si è calmata, cioè, riesce meglio, a parte che abbiamo la cucina che blocca il gas da solo, se no c'è fiamma, ma c'è un periodo che faceva danni, non so perché, vabbè, era stata poco bene, adesso non segniamo in particolari. Comunque una bella, mamma mia, un'esperienza da non ripetere, tanto più che se eravate in casa avrete sentito un fragore allucinante, assordante, tipo bomba atomica. Gianni, sei tu? No. Ah, Antone, mi stavamo parlando male di te prima, mi. Ciao Antone, ben entrato. E saluto a tutti, bene ascoltati. Ok, riprendo io. Ciao Antone, ben entrato. C'è anche Fabrizio che ti manda avanti. Avanti Fabrizio, Antonello. Noi tutti i giorni parliamo male di Antonello e Fabrizio. Sì, Rossi ha fatto bene, perché se lo merita. Io ve l'appoggio a tutti e tre. No, Antone, siccome Giulio ha raccontato che su Cibital che è entrato a parlare con, come si dice, con l'Argentina, no? E loro gli hanno risposto cortesemente, no? Naturalmente in spagnolo. Poi ci ha detto, come è entrato Pomponio a parlare nei brasiliani, l'hanno accettato. Ho detto, come ti rubi di Lutrattani? Mi ha accettato e poi, quanto è durato? 4-5 giorni, non di più. Mi ha messo una risalera, a voi me l'ha tolta, infatti se notte non c'è più. Pure l'amministratore, hai capito? Figurati tu. Dobbiamo dire il culo, a un certo punto. E poi sono andato e ho detto, come se italiano non lo vogliamo bene. Però vabbè, allora però io mi ero bene andato. Perché ti conoscono che sei un ragazzaccio, è quello, il problema è quello. Subito tu scantoni sempre, non fai altro che sconfinare in certe frasi poco orientabili. Io ti rispondo in questo modo. Fanno bene, Antonio, fanno bene. Sì, infatti ho fatto il cambiamento da Italia e ho cliccato sulla bandiera argentina e mi hanno risposto, questo qui mi ha risposto, ma parlava in spagnolo, io qualche parola capisco, ma niente di più. Va bene, avanti Fabrizio, e tu ci ascolti mai sul CB Talk o Fabrizio? Sì, capita ogni tanto, cioè, capita, ho sentito anche a Pomponio. Sì, l'altro giorno c'erano 15, eravamo in 15, tutti in fila eravamo. C'era rimasto di Giardino e di Sassi, tutti su canale 14 eravamo. Quindi, è sembrato che non ce ne fosse gente, ha detto. Una 15 eravamo. Sì. Ciao, Cla. Ma diciamo l'ora di arrivare. Auguri, Cla, auguri, non ci pensare, togliti la striscia del lutto, toglitela, non è il caso, guarda. Mi prendi? Stiamo anche pensando. Buonasera a tutti intanto. No, è da poc'anzi che vi ascolto, anzi, diciamo, da un bel po', però abbiamo finito, adesso stavo smontando la camera di mia figlia che l'abbiamo portata in un'altra casa e quindi ero impegnato tutta la sera. Adesso mi sono un attimino seduto comunque. Riprendete pure e buona chiacchierata a tutti, ok? Un saluto circolare e ci sentiamo in un'altra occasione, dai. Ciao a tutti, riprendi tu, Marcolino Condor. Butto qua qua, ma è. Ehi, registrato Gianni. Ehi, c'era anche Walter, era entrato a provare radio, poi non, forse rientrava dopo, ma non è rientrato. Vai Gianni. Buonasera a tutti. L'ho sentito, Walter, l'ho sentito, vai. Ciao, ciao Marco, ciao Gianni. Ciao Gianni, ben entrato, sono tu. Ciao Antonello, buonasera. Ciao Gianni, ben entrato anche a te. Ciao Claudio, se stai chiudendo non lo so, non ho capito bene. Sì, c'è anche Fabrizio, avanti Fabrizio. Ciao a tutti, saluto anche gli ultimi entrati, che ero distratto e scarica tutto, potevo scaricare, no, stavo scaricando dei documenti e ho sentito che sei entrato, sembra Gianni e Claudio. Allora, saluto a tutti, rimango in ascolto, vi ascolto un altro 10 minuti e poi spengo, che vado un attimino che sarà quasi ora di cena. Così mi distrago, sto cercando di scaricare un documento molto pregiante. Dai, ci sentiamo dopo, un saluto, ciao a tutti. Scusa Fabrizio, buonasera, ben sentito, pensavo che era quel cuocomale di Fabrizio Mascherato, che ero distante. Oggi burro affanno, ciao, cordialità e saluti, ben entrato. Il cambio per Gianni, allora, dai, no, Giulio, rimango in ascolto che mi faccia una doccia, perché va, è tutto il giorno che sciogo carrende, andende e torrende, e siccome non è vicino, davanti ora qua, una fatica che non ti dico. Va bene, ciao, a dopo se ci siete, se coincide, un saluto circolare a tutti. Ma non male che eri in pensione, mi. Ciao Fabrizio, anche a te, va. Va bene, non ci lamentiamo, va benissimo, ciao Gianni anche a te, ciao Claudio, ciao a tutti, e passo in ascolto e proseguo, che ho scaricato due cose, non devo scaricare, non riesco a capire cosa sono, dai, ci sentiamo, un abbraccio. Tre e qualche rumore, non so, buh. Orecchio a ventola. Sì, la ventolina, non è niente ragazzi, la ventolina. Va bene, dai, sono qua comunque che mi sto denudando. Ci voleva il video baracchino, eh? Come si diceva una volta alle pischelle. Il club degli omosessuali si è riunito ancora. Non c'è rimasto più niente, adesso tocca a te. Io quello che devo fare l'ho già fatto, vero Giulio? Vorrei vedere a fare il mandrillo adesso. Ci mancherebbe a quell'età, oh qua, no, non è il caso. Dai, saluto a Fabrizio intanto, grazie per la chiacchierata Fabri, alle prossime. Fate sentire noi la sera ogni tanto qua la chiacchieratina ce la facciamo, alle volte entra anche Walter, entra e così scambiamo quattro chiacchiere, in tanta pace e tanta tranquillità. Il canale qui è abbastanza tranquillo, pulito e gente come Antonello, lo mettiamo in riga, non si preoccupare. Sto scherzando, Antonello. Fammi gente come Antonello, lo mettiamo in riga da lui. Vero Antonello, ti mettiamo in riga sempre, vero? Ho capito che stavo guardando la gradatura del Waze, dimmi. C'è una stazione, sta chiamandola poco fa, ed esce Saturo, chi è avanti? Un segnale che arriva a 7, radio, sembra in FM, provate voi. Non ho detto nessuno. Io ho detto subito, avete, stavo guardando un attimo la gradatura del Waze. Arrivo subito, 2 minuti. Non lo so, tu Gianni, senti qualcuno? Io non lo sento, No, già mi stavo già pensando, sarà come si chiama? Quello di Muros. ho pensato, ma sarà lui, perché di solito appena che entra entra sempre male, no? Adesso niente di particolare, per carità, però stavo pensando a quello, stavo pensando. Invece no, va bene, dai, si metterà a posto, comunque non ci sono problemi. Avanti Marco. Ma non so se entrerà più Gianni Muros, perché qua siamo un giorno sì, 10 no in radio. Per quanto mi riguarda, aspetta che mi sta chiamando mamma, mamma mia, non continuo, riprendete voi, vai Gianni. Non hai più gana? Vai! Perché per bere così è basta. Non è che ha una certa età, si giovane. Sì, quante te sono già, non siamo più ragazzini, no? Quindi siamo lì. No, no, ma sono stanco in questo periodo. Stanco, stanco, devo cercare di togliere i piedi con questa casa, perché sennò oggi non te ne dico. Non ho dato abbastanza nella figlia, portata là. Ho fatto tre viaggi, vado vicino a Pezzi, visto che non si poteva fare niente qua in condominio, con l'autoscala abbiamo fatto questo piccolo tramway, capito? Adesso lei si porterà via tutta la roba da mettere a posto, ma sono stanco già, credimi che sono stanco. E come la sta stata mano? Oh, la macchina, oggi mi giro di macchina, e c'è il furgone quello chiuso lì di tetto alto, del centro dell'impresa che sta facendo lavori qua dove sto collaborando io, capito? Ma non ci abbiamo sceso niente dalle scale, al secondo piano appoggiato il cestello dell'autoscala, caricavamo lì, abbassavamo il furgone, caricavamo lì, abbassavamo il furgone. Quando c'è la comunità, no, anche perché non volevo occupare l'ascensore, rompere scatole, eccetera, capito? E niente, poi giù. Oh, già, mamma mia. Cosa mi ha fatto dannare a togliere la base, quella che hai messo la piastra sotto della sala radio? Non te ne dico. A giù mai non riuscivo a... Mi sono dovuto far dare un coso da quello che mi stava smontando i mobili. Quel cacciavite, come si chiama? Quello, no, a trappa, no? Perché l'hai stretto con quella, tu quella piastra. Beh, cosa mi mettevo io? Professionalmente non è che mi mettevo a avvitare a mano, è chiaro che usavo l'avvitatore, ovvio. Magari non avevi il cacciavite, perché ogni vite, ricordati, deve avere il suo tipo di cacciavite. Alle volte può sembrare che va bene, invece non va bene, perché tu pensa, tu vedi un cacciavite, per dire, non so, oggi così, no, lo vedi magari, uno prende magari un cacciavite invece per le viti da meccanico, sembrano uguali, sembrano, ma in realtà non sono uguali, perché c'è una piccola differenza, e quando tu vai a svitare o a avvitare ti slitta sopra, insomma, bisogna usare sempre le cose giuste per ogni evenienza, ci mancherebbe. Sì, ma è chiaro, io usavo l'avvitatore, no? Makita professionale al 100%. Sì, l'ho visto, no, perché non doveva togliere, capito? L'ho messo talmente bene per quella piastra. L'ho fatta le righe, cioè che mi stava ruotando i mobili. Diciamo, non è questa base che mi ha messo in ufficio, no, non l'ho preso, no, ripetilo. Questa base che mi serve per mettere nell'ufficio, bellissima, dove l'hai comprata? Non ce n'è, non riesci a trovarla questa, è arrivata dall'estero, gli ho detto. Dalla Argentina. vabbè, sono cose normalissime, non è un problema. Diciamo che era un materiale che avevo, l'abbiamo unito, come vedi, ed è servito, dai, il suo lavoro l'ha fatto e continuerà a farlo, fin quando tu non te ne libererai, continuerà sempre a farlo il suo lavoro, certo. alla grande, nessun problema. Avanti Marco. Manca una mania, no, quella base finisce dall'altra parte, non ti preoccupare. Ho lasciato solo una, quella che è tassellata a muro generata, perché ancora ce l'ho un po' di radio, non molte. Le VLU, il 440 e il 430, adesso tutto, tutto è già dentro la scatola, è pronto a viaggiare. Va bene, va bene. Ok. E tu lo più rum, anche tu sei rientrato in ritardo oggi. Sono entrato a casa perché con la sanità mi ha chiamato, come è stata la sanità? Stavo guardando il visore e mi ha svegliato il sole. Sì, già. Non ti dico la stanchezza che ho addosso, la sera, guarda. Adesso da quest'ora in poi già io inizio a essere un po' più debole, perché tiro, e in realtà c'è. Sono già un anno a gennaio ho fatto fermo, quindi oggi ho lavorato forte, la verità. Lavorato forte, mi sono liberato un po' di roba, questa stanza è già quasi vuota, altre vuote. Adesso pian pianino rimaniamo ancora così, al momento in cui. Comunque ti volevo dire, per via San Francesco è portato fortuna, perché com'è? Oggi cos'è? È venerdì, quindi noi quando abbiamo parlato? Avanti ieri, poi ieri, perché ti ho sognato, ho detto, c'ho appuntamento con uno, se vuoi venire ti ho le chiavi a te, te raggi tu. Infatti io ho detto no, vai tu perché io sono impegnato con l'impresa che sta facendo lavori a casa e quindi non ci posso venire. Una coppia di giovani, giovani, sono molto molto interessati già. Speriamo bene, dai. Almeno sono contento, là. Come lo so sentito la storia di quella mia collega? È trovato la sorella? No, già, non ho seguito niente, sono un po' fuori, sono anche mia moglie, ma detto ci è morto Webbo, è morto uno, non so dove. Io conoscevo, diciamo che la fotografia, non lo so, sono ritirato già, proprio chiuso in questi lavori, in queste cose, perché non tengo piedi, quindi voglio andare ai noghi e se non finisco è un casino. Allora, la stata qua di Cagliari, ammetto, ha scoperto di avere una sorella, però praticamente non l'ha mai conosciuta, l'ha scoperto perché gli ha detto una parente, allora si è messo la ricerca. Se conoscevano questa ragazza che aveva gli occhi azzurri, però la definita è tutto quanto, però gli ha detto tutto dove era stata, che lui era stato un po' e non sapeva fare il nome. E siamo stati riuscito pure che era questa mia collega da belle anche quelle, dai. Sono cose interessanti, belle, l'importante ci sia armonia e tutto il resto. Vabbè. Capito mai, vado giù. Ah, ma sei tu, Iavuia. Hai trovato, io sono arrivata dal letto, poi gli ho detto che me l'ha fatta. Hai già ti conosce di vista anche. Ok. E vabbè. Adesso sono parecchi anni fatta anche, no? Adesso io non mi ricordo, ma almeno 5 anni sarà fatta quella base, vero qua? E quando sono arrivato qua, da via Pascoli, 6 anni fa, col 2019, 6 anni, sì, no, ma l'ho messa in piedi, girata al contrario, no? Perché nelle aggiunture, tu non ne vedi aggiunture, vai che è tutto uno. Ma le mie vicinità come non venne, tu non c'è voi ti dica, evidentemente era così. Poi glielo spiegate, si allucina, perché la vuoi. Perché l'ha fatto con un cipitolo. A voi 60 anni di Valeria Maria penso che sia buono a fare le cose. No, ma è perfetta, Giulio, perfetta. Proprio perfetta, le piedi li ho piegati, perfetta veramente, le giunture e tutto non ha perfetta come il giorno che l'hai fatta, anche l'altra quella piccola di sopra lo stesso. Quello adesso sto organizzando, devo finire alcune cosette e poi tutta questa L va montata nell'altra casa. Io c'ho un mal di testa. Nell'altra casa come era prima, capito? Poi se ho problemi già ti chiedo. chiamo, perché se l'avevo tassellata come era tassellata, voglio fare un lavoro fatto bene. Vediamo un po'. Ok. Antonello Motopompa, non c'è? Appare e scompare, eccomi qua. Dai, visto che sono le 8 qua, alla fine mangiamo qualcosa. Non è il pranzo l'abbiamo già fatto. Stranamente l'abbiamo già fatto, dai. Ci sentiamo l'altro giorno. Va bene, dai, vi saluto tutti, non so che ci sia rimasto. Ciao Marco, ciao, buona scarica, dai. Questo che cos'è lo stessino? Sì, tutto, praticamente mangiamo quando abbiamo fame. Pensa che stanotte mi sono alzato, ho dormicchiato, alle 5 sono andato in bagno e poi avevo un po' di fame, mi sono fatto un tramezzino, maionese, tonno e pomodoro alle 5 di mattina e poi mi sono ricoricato. Ma da dove c'è poco la fame? Ui, come sto? Stavi dicendo giù che poi lontananza io ti ho sentito che stavi parlando con Marco, di che Marco faceva le battutine, la mazza e te ne vai. Prima le fatte delle antenne, a me le antenne non me ne scendono, stai pur certo che non le ho piazzate io, ma chi le ha piazzate sai fatti suoi, ed era poco fa che stava parlando, quindi le ha piazzate Fabrizio, ma un pezzo non ingaggia nulla, perciò fai da bravo. E poi hai fatto la battuta della Juventus. La Juventus ha perso perché doveva perdere, perché fare una partita del genere in quelle condizioni evidentemente non gliene fregava niente la Coppa Italia, non so se d'accordo Giulio, perché fare un turnover con una squadra che ha fatto più gol in Serie A, c'ha l'attaccante migliore assoluto della Serie A, perché Zapata per me è il miglior attaccante che ci sia in questo momento della Serie A, quindi fai un turnover, non hai difesa, sei infortunato Chiellini, non hai centrocampo, quattro pupazzi passeggiando, Ronaldo sembrava l'arbitro, perché io non ho visto fare un passaggio, un tiro in porta, non ho visto niente, quindi per me se ne prendevano 6 anziché 3, ero il più contento del mondo, perché evidentemente non le interessava la Coppa Italia. Si saranno venduti la partita, a me mi sa che tutte certe sono programmate, tanto il calcio non vedi che è tutto marcio, tangenti, casini, è tutta una cionframi, non è più il calcio di una volta. No Marco, no, non se ne vede partita la Juve, la Juve è la squadra, è la squadra più ricca che c'è in Italia, è una delle più ricche in Europa, figurati se ha bisogno di vendere partite, assolutamente no. No, attualmente non c'erano, ecco qual è il problema. Che attacchi. Che, però c'ha anche delle attenuanti, la Juve ha anche delle attenuanti, aveva tutto il centrocampo messo male, anche se Chedira era appena rientrato, però proprio per quel motivo lì che era fuori dalla partita, ad esempio. Bentancur lo stesso, Pjanic l'ha messo negli ultimissimi minuti, e tutta gente che era infortunata, quando si sa, quando il giocatore è infortunato al rientro non può essere al top della forma, ci mancherebbe, anzi sono ancora impauriti da quello che hanno sofferto per l'infortunio eccetera. E poi si era infortunato Bonucci, si era infortunato Chiellini, e non bastava Bonucci in difesa e si è infortunato Chiellini. No, ma c'era anche un po' di malumore per quanto riguarda il fatto di Berattia, che appunto è voluto andare via per forza. Però io penso che questa sconfitta magari non è dispiaciuta anche a loro, perché speravano di vincere anche quest'anno la Coppa Italia. Ma se noi pensiamo che sono usciti fuori tutte le squadre più forti, Napoli, Inter, tutti quanti, c'è rimasto il Milan, io penso che il Milan ha buone probabilità di vittoria adesso, però c'è anche la Atalanta, che non lo so quanto possa essere facile, se c'è una finale, se ci sarà una finale Atalanta-Milan, non lo so per quanto possa essere facile per il Milan, non credo, perché adesso si incontra con la Fiorentina e suppongo che l'Atalanta possa vincere con la Fiorentina e dunque va in finale. sì, ma a parte quello, comunque Agnelli è sceso, ha convocato tutti, l'allenatore compreso, e ha dato una bella strigliata a tutti quanti, perché la Juve deve vincere sempre, cioè deve giocare per vincere. Però ci sta, una sconfitta ci sta, dopo 20 partite, questa è la prima sconfitta di quest'anno, di questa stagione in Italia, dunque ci può anche stare, ci mancherebbe, si sa. Non sono dei robot, no, anche loro sono uomini, e anche gli altri sono uomini. E poi devo dire che l'Atalanta è sempre stata la bestianiera della Juve, perché ha dei giocatori molto fisici e oltretutto sanno anche giocare al calcio, oltre alla fisicità della squadra sanno anche giocare, oltre al fatto che hanno un allenatore che li sa mettere bene in campo, per cui ci sta, dai, ci sta. Noi pretendiamo, perché essendo tifosi chiaramente il tifoso vuole vincere sempre, però non è così, non si può sempre vincere con Claudio. Faccio riprendere a Gianni e poi ti rispondo. Io capisco Giulio, noi siamo juventini, ci piace che la nostra squadra vinca, però io non ho visto giocare la Juve, perché ieri io ho visto l'Inter, ho visto l'Inter che contro Lazio hanno dato il cuore tutti e due, ai supplementari, durante i 90 minuti, hanno dato il cuore, hanno giocato tutti, la Juve non l'ho vista giocare, quindi non è un discorso di che cosa, di cosa vogliamo parlare, cioè non hanno giocato niente, non c'è stato un giocatore che ha fatto tutto in porta, poi perché non c'erano giocatori? Perché? Pjanic lo potevi fare entrare, facevi fare un tempo a Pjanic e un tempo a Bentancur oppure a Magarciano, cioè, Magarciano, metti in cazzo di già, ma non riesco mai a dirlo, ok, alternavi uno o l'altro, vabbè, da una parte mettevi Cancelo come sempre, dall'altra parte mettevi Douglas Costa, punto. Poi c'era Bernardeschi, lo toglievi e facevi entrare Adebala, va bene, cioè, la squadra c'era la panchina per poter vincerla la partita, secondo me non gliene è fregato niente a lui, continua a fare questi turnover, adesso col Parma, visto se non c'è Chiellini e Bonucci non c'è, se non c'è Chiellini non c'è Benatia che era il miglior difensore che avevamo come riserva, Agapponi, Arrugani, poi fissato un cazzo di Sciglio, scusa le parolacce, è fissato con De Sciglio, ma tu vuoi mettere a Douglas Costa o a Cancelo con De Sciglio, ma di qua stiamo parlando? Cioè fissato, ha fatto degli errori madornali, a lanciare questi lanci, chi è che lanciava? Manca Bonucci, non lancia più nessuno, chi c'era? Centrocampo morto, vero, secondo me non gliene fregava niente la Coppa Italia, perché quella partita si poteva vincere, non prendere tre gol, vi ricordo che abbiamo preso tre gol non di azione, solo il primo era un gol, anche lì palla persa, gli altri due palle perse, una da Cancelo e l'altra dalla difesa, quindi tutte e due dalla difesa, perciò Giulio, questa è la mia critica che posso fare alla Juve, che per me è sempre vincente, vadano come vadano le cose, ma la Juve in questo momento non vince più niente, può vincere solo il campionato a questi livelli, ma a livello di Coppa e di Champions non vinci nulla. Sì, anch'io penso che sarà molto difficile riuscire a vincere la Champions, questo sì, non ci sono dubbi, no, io non sopporto appunto il gioco della Juve, non lo sopporto nella maniera più assoluta, perché l'ho sempre detto, Allegri non è l'allenatore della Juve, ha vinto tanto e sta sempre vincendo tutto quello che vuoi, ma perché? Perché ha il materiale umano, sono loro che vincono, non è certamente l'allenatore per me non è l'allenatore della Juve, perché non vi ha saputo dare in questi 5 anni, non vi ha saputo dare un gioco alla Juve nella maniera più assoluta, per cui lui non, per quello che dico, non è un allenatore della Juve, assolutamente no. Però anche Cancelo ha fatto 2 errori madornali, soprattutto il terzo gol della Juve, ha dato palla indietro, grazie a Tagliata Corta, a Szczęsny, e quello era un falco, Zapata lo sapeva. sappiamo, è sempre stato un giocatore fortissimo, pensa che ha fatto roba di 10 gol nelle ultime partite, continuamente, tutte le volte che gioca ha sempre segnato. E purtroppo sono giornate che capitano storte, è andata così perché non c'erano gli altri, non c'era centrocampo, non c'era niente, non c'era difesa, non c'era centrocampo e la squadra era allo sballo in tutti i modi. Poi questo fraseggio di palla che hanno, laterale, così, palla indietro, palla al portiere, ma quando mai? Con un giocatore che abbiamo come del valore di Ronaldo in attacco, tu non gli fai mai un lancio in verticale. Non ci sono uomini, non ci sono giocatori che hanno i piedi buoni, hanno fuori i bucci nella Juve, non c'è un giocatore in grado di lanciare un attaccante come Ronaldo, non ce l'hanno nel loro DNA, sono giocatori che lavorano in proprio, se vogliamo, non lavorano di squadra, invece l'allenatore deve correggere, far giocare di squadra, non giocare in proprio ogni giocatore, no, non va bene così qua. Dai, riprendi Gianni, dai. Gianni al telefono, non risponde al telefono. Sì, ti ho capito Giulio, io ti capisco perfettamente. Però in quel contesto lì, in quella partita, un allenatore come Allegri, sai benissimo di che stazza è l'Atalanta, che in questo momento ha il miglior attacco del campionato, proprio contro la patta, ok? E tu mi lasci i due elementi buoni, perché poi la dichiarazione mi ha fatto incazzare da morire, cioè la dichiarazione poi finita la partita, insomma, hanno fatto le cose, ma devono giocare tutti. Ho brutto imbecille, cosa vuol dire devono giocare tutti? Ti stai giocando la semifinale di Coppa Italia, hai tre elementi buoni da poter usufruire, ok, come Cancelo che poteva giocare al primo minuto, poteva giocare benissimo Douglas Costa e poteva giocare benissimo anche Dybala. Se vedi che l'attacco non c'è stato un lancio per Ronaldo, metti uno che riesca a lanciare. Quindi in quel caso lì al secondo tempo doveva cambiare la squadra e far entrare a Pjanic, perché Pjanic si è ripreso tranquillamente, un po' che Dida è ancora tuntunato, va bene, però qualcuno che potesse lanciare, che potesse tirare, che potesse fare. Ronaldo stava facendo l'arbitro, per non dire segnaline, perché era sempre da una parte, non lo zicava nessuno. La partita l'hanno persa perché l'hanno voluta perdere, secondo me, perché quella non era una partita da perdere, ok? Perché il materiale per poterla vincere ce l'aveva, non l'ha sfruttato, come fa sempre lui, ne abbiamo già parlato di queste cose, va bene, ne abbiamo già parlato. Adesso domani, che è a Torino, tu vedrai i bruci che pigliani contro il Parma, e il Parma, stai attento, che la prima partita del campionato per poco ci fa la bubua, perché lui continua a sottovalutare, fa i turnover con le squadre, così ha fatto col Frosinone, così ha fatto con l'Empoli, così ha fatto con Rubarma, così ha fatto in Coppa Italia con l'Atalanta, ma stiamo scherzando, ma di quale turnover stiamo parlando? La panchina è panchina e rimane lì, secco il petto, di cui io quando entri, cosa vuol dire devono giocare tutti? Allora io mi permetto all'allenatore di lasciare un Douglas Costa e un Cancelo in panchina, un Pjanic in panchina, vedendo che stai perdendo 1-0 e ti stanno invato Lugabo a cacco, capito? Contrappatto in attacco che per me non ce n'è. E stai attento che il Milan si riprende forte, perché ho visto a Pionta che giocare da paura, cioè prima partita due gol secchi, ha eliminato il Napoli, stai attento perché il Milan si riprende forte, c'ha veramente un attacco micidiale adesso. Sì, beh certo, il Milan gioca con cuore proprio, ci mette l'anima, ci mette nel gioco, cosa che in questo periodo non sta facendo la Juve, basta pensare che nelle ultime due partite ha fatto complessivi 7 tiri in porta appena, in due partite 7 tiri in porta, non è da Juve indubbiamente, ma ripeto, è sempre il discorso, è sempre Juve, cazzo d'allenatore, ecco qual è il problema. Che cazzo ti tira? Tu mi devi far correre, devi dare un gioco anche a questa squadra, perché se no le geometrie ormai sono risapute e conosciute, quindi se tu mi fai i passaggi laterali a centrocampo e parti sempre dalla difesa, a quando arrivare in porta? Capita, hai perso tutte le forze, non puoi avere la lucidità proprio giusta per poter andare a rete. Per non parlare poi dei giocatori che ha rovinato, perché per me io voglio essere anche cattivo nei confronti di Allegri, ma mi ha rovinato Dybala e Higuaín, li ha rovinati tutti e due, facendogli fare quel tipo di gioco. Ma quando mai tu due punte come quelli due me li fai giocare a centrocampo? Ma puoi scherzare? Soprattutto Dybala, che è uno leggerino, che è sempre per terra, basta che soffia un po' di vento e subito cade. No, non è possibile, dai, non è possibile. Dybala deve giocare di punta pura, perché anche l'anno scorso, nonostante che l'ha fatto giocare un po' arretrato, però i suoi 20 gol li ha fatti in tutta la stagione, tra Coppa e campionato. Per me li sta rovinando, ha rovinato Dybala e ha rovinato Higuaín, e Higuaín l'abbiamo visto anche domenica, che ha perso 4-0 nonostante che era con Sarri, ma Sarri giustamente non è che può fare miracoli, non può fare miracoli, e basta che riesca a rispolverare tutto il suo vigore atletico e fisico anche Higuaín, ma ho la sensazione che anche lui ormai è già sul viale del tramonto, perché non l'ha rovinato sia la Juve che il Milan a Higuaín. Io la penso così, io non sono un allenatore, però il calcio l'ho giocato e devo dire che queste cose un pochino, senza nessuna presunzione, un pochino lo conosco il calcio, dai. Gianni? Ehi Gianni! No, è stata la cosa con il figlio, se non rispondo, vabbè, sempre parlando di calcio, io ascolto. Di, non c'è più fatto, Gianni deve essere al telefono. Riprendi, ricalcio perché si parla un po' di tutto, noi siamo appassionati di calcio, come tutti, tu il calcio come Marco non è che lo segui, riprendi. No, io ho giocato da giovane a pallone, però che guardare il fatto che mi piaceva giocare, io ho giocato, sono con la squadra, la Ranger, la Santa Fuori. Ah, Ranger, io me lo ricordo. Ah, ricordo quella squadra, sì. Ne avevo sentito parlare, insomma, c'era questa squadra di quartiere del Sacro Cuore. Uia, uia, caro Giulio, no, non ci siamo. C'era anche la critica su Sky Sport 24, c'era la critica di Beratia, no? Ma vai a rivendere Cáceres, anzi già rivendo, e cosa ne vai di Cáceres? Cáceres fa la stessa cosa che faceva, adesso lo fa giocare, no? Lo fa giocare perché Bonucci è fortunato, eh? E poi va in panchina come mette Benatia e se ne andiamo a mettere Benatia. Ma tu puoi tenere un giocatore come Benatia in panchina, lo fa entrare così a fare i turnover? Ma di qua stiamo parlando? Noi stiamo parlando di uno dei migliori difensori che c'è, che c'era sul mercato e attualmente è un bravissimo difensore. No, di qua stiamo parlando. Alternati, una partita gioca Alessandro, una partita gioca Benatia, una partita dall'altra parte e Garè l'altro difensore. Cioè gli alterni, fai fare una partita per uno, non una partita ogni mese. È chiaro che Beratia si è voluto andare, è giovane, vuole giocare, perché lo devi tenere in panchina? Ma Buffon, Allegri è così, punto e basta, e stiamo attenti perché se non vince la Champions, io sono convinto al 100%, perché lui ha detto che con Ronaldo vinceva la Champions, se non vince la Champions, io penso se vuoi chiare valigie, chiamami, te lo sto dicendo, le valigie si fa, perché non faccio più nessun abbonamento, nulla, ne ho tre abbonamenti compreso da Zon, ne voglio tutto perché non la voglio più vedere a Juve, se al prossimo campionato c'è ancora Allegri. Indubbiamente Io, se continua così, guarda che Agnelli non è scemo, già ci pensa lui eventualmente. Non è che dorme, non è un uomo che dorme, è giovane e ha delle idee molto chiare. Grazie, ha l'intenzione addirittura di prendere Mbappé, figurati un po', grazie, se Agnelli si addormenta e si perde magari in un allenatore che non fa il suo lavoro a livello di Juve, ma vuoi scherzare? No, non va bene, dai. Cazzo, 3 anni fa te l'ha mandato, adesso me lo richiami. Sì, poi tra l'altro era anche anzianotto, già 31 anni, non è poco. Vabbè, l'ha preso per questi 6 mesi, non è che l'ha preso definitivamente, poi naturalmente non penso che lo riscatti nella maniera più assoluta. L'ha preso proprio perché non è riuscito a prendere nessun altro. Però c'era Benatia che doveva rimanere e aveva ragione che rimanesse Benatia, perché aveva ragione che non giocava mai, è un centrale, solo che c'era questo da dire e purtroppo in quel ruolo c'era Chiellini e non è che potevi togliere a Chiellini per mettere Benatia, ma adattalo perlomeno, mettilo a fianco a Chiellini e fai lo scambio anche con Bonucci ogni tanto, insomma non era facile nemmeno quello per Allegri, bisogna anche capire questo, perché Allegri sì, ha le sue idee, può essere anche un pochino presuntuoso, tutto quello che vuoi, però come facevi tu a sostituire Bonucci o Chiellini? Perché i ruoli di Benatia erano quelli, non è che c'era molto da scegliere. Terzino, o metti Benatia o metti Cancelo, insomma. Vabbè, adesso c'era anche Cuadrado, ma Cuadrado è infortunato, dunque insomma c'è un po' di tutto, dai, andiamo a vedere, dai, vedrai che si riprende la Juve, già si riprende alla grande, pazienza, se non ha vinto la Coppa Italia, l'ha vinta 4 volte di seguito, e capita, non è detto poi che deve vincere sempre la Juve, no? ci dobbiamo anche accontentare. Va bene, dai, adesso con quest'ultimo passaggio, sono già le 8:30, io vi saluto, perché vi sono trattenuto anche oltre misura come orario, per cui vi saluto tutti quanti e vi ringrazio per questo, alla prossima, dai, ciao Claudio, ciao Gianni, ciao Marco se sei ancora all'ascolto, ciao Fabrizio se sei ancora all'ascolto, salutone a tutti e ringraziamo a tutti quanti per aver fatto questo, dai, salutone, ascolto il finalino poi chiudo, vai Claudio, vai. Aspetta, faccio salutare la Gianni, vai già. Ciao Claudio, ci sentiamo, dai. Ci sei? Marco Magnelli, va bene, c'è qualcuno vuole salutare Giulio? Ho interrogato buona parte, ma chi l'ho portato? Sì, l'ho portato perché ce l'avevo sempre appresso e quindi all'ultimo viaggio che ho fatto, dai. E sono rientrato col furgone, ho vediato il furgone, sono salito, ho preso a lui, perché non stava più male, l'ho portato. Ecco perché ho tardato anche, se no avevo finito che erano le 7:15, 7:20, prima le 7:30, proprio perché c'era l'impegno del cane. E vabbè, adesso vediamo se ci riusciamo, lui rimane in campagna, c'è la Bigliellucci. Adesso deciderà mia figlia cosa vuole fare. Cosa stavo dicendo? Niente, non mi ricordo. Comunque, ecco perché Claudio non è ancora mia pubblicità, io ancora non l'ho già cambiata, e io mi sono accontentato, mi sono fatto per me, non capisco questo sonno. Ho guardato qualcuno, dopo un frano, è finito puro, e da lì non mi sono svegliato. Sì, vabbè, stamattina mi sono fatto un po' il freddo perché sono dovuto andare dalla dottoressa, eccetera, eccetera. E adesso ho pensato in volere che vado da una bruttoplana. No, poi ci devi salutare Giulio, allora ciao Giù, alla prossima, ci sentiamo domani, dai. Tante belle cose, spero che si riprenda perché te lo sto dicendo. Io a questi livelli mi incazzo guardando la Juventus. Mi incazzo perché non è la squadra che voglio vedere giocare. Vabbè, ciao, buona serata, domani. Ok, è già sceso Giulio. Vuole andare da un crudo pratico? Ehi! Caspita. Vuole che mi tocca, non prendo l'acqua e ce l'ho messa. Chiuderlo definitivamente. Sì, perché so che è l'unica soluzione, secondo lei, quella lì, perché poi abbiamo di inventare. siamo tutti rose e fiori. Lui sta facendo la, tutta la, la, la documentazione per il gravamento, che è uno che non ci vede, non mi dà più mia moglie, cosa pensi? Quindi l'hanno già dichiarata poverente, non c'è del tutto, ma a uno che non ci vede più. Qui sta facendo gravamento, un sacco di spese, qua, tutto l'altro giorno 80 euro, una visita, adesso ne ha un'altra 60 da dottor Canopoli, poi ne ha un'altra 60 da dottor Pirino, lascia perdere già, è così, no, ma tu li trovi la testa, è già successo anche a mio fratello, è successo a mio fratello, il fratello quando aveva avuto problemi, lo stesso, un taglio, l'aveva fatta lui una cosa di chirurgia plastica, pagamento, bravo. Magari ti fanno passare la visita, non lo so come funziona, ma se c'è l'operazione abbassi, come sta dicendo la dottoressa. Funziona così purtroppo in Italia, capito? Funziona così. Vabbè, genio, ma manco un maestrale da fatto male. E io lo so che all'imbecio non ti preoccupare. Con la a posta per essere attento, ed è ancora all'imbecio. Forse sta girando un po' greccare però, perché sento il vento anche dalla parte qua della sala radio. Se sarà radio, domani avremo anche un minuto. Sì, però l'imbecio fortissimo, fortissimo, fortissimo. Vabbè, non ci sono stati problemi, come sempre. Avanti già. Hey, ciao, ciao Luigi, dai, ma io sto andando, la conferenza di carne, perché no, tanto contata, magari io, tanto contata, magari la conferenza di carne. Ehi, ehi, già, allora dai, portalo. Ci sentiamo domani se coincide, speriamo ci faccia fare qualcosa qua al condomino. Però vabbè, comunque domani sera già entro, non c'è problema, tanto qua ho quasi terminato, devo solo mettere la roba in scatola e poi già se la porterò via loro. Devo fare un salto in campagna perché domani c'è il fabbro che deve mettere il motore al cancello. Va bene, ciao, buona serata, buon tutto, alle prossime, avanti, io oggi. Ciao, ciao, ciao Gianni, a domani se coincide. Cosa hai detto? Oggi a Ponente sta girando. Sì, sì che ti sento. Mamma mia. Ma è forte, ancora è forte, qua su è forte. Ma anche a Monteoro si sentiva parecchio. Perché poi arriva ad Alghero un po' meno. Più riparato, però qua è fortissimo, molto molto forte, infatti eravamo con l'autoscala, vabbè al secondo piano, dalla parte però di dietro, quindi non toccava, ma dalla lato strada toccava un bel vento. Vabbè, si è arrivato quindi? Ah, quindi dov'è adesso? Ferma, sotto la Genara? Ho capito, ma è partita comunque la Tirrenia? Tu stai dicendo per domani mattina a rientrare? Ah, ho capito. E magari cala un po', boh. E una volta che è in alto mare si arrangia. Ciao, Roger, ciao, alle prossime, a domani, ciao ciao.